E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità, e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Sei una zanzara. No, non ho detto gioia. Sei ancora a casa, Simo? Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Berlusconi e l'elogio delle tangenti, in realtà non è così, così viene interpretato da tutti. In realtà non è proprio così. Dice Berlusconi che in alcuni paesi bisogna oliare, pagare le commissioni. Sentite. Con questo fatto di questa magistratura noi ci stiamo facendo fuori dalla possibilità di competere nel mondo con gli altri importanti gruppi, perché nessuno tratterà più né con l'ENI, né con l'ENEL, né con Finmeccanica. È una cosa veramente da masochismo puro. Però mi perdoni, se bisogna sono stati essere commessi, molto preoccupati. Se sono stati commessi dei reati la magistratura. Ma non sono reati, si tratta, scusi, di pagare una commissione a qualcuno di quel paese, perché quella è la regola di quel paese. Vogliamo non pagare commissioni? E allora stiamo a casa e non vendiamo più niente. Ancora Berlusconi su questo, fatemi sentire un altro. Berlusconi. Dunque, io ho fotografato la realtà globale esistente. Nel mondo, quando si tratta le nostre, i tre gioielli nostri, Eni, Enel e Finmeccanica, trattano con altri paesi per vendere i loro prodotti, devono adeguarsi alle condizioni di quel paese. Nelle democrazie normalmente si fa soltanto la gara d'appalto, in paesi che non sono complete e perfette democrazie ci sono altre condizioni che bisogna accettare se si vuole vendere il proprio prodotto a quei paesi. Anche se sono illegali? Ma sono illegali per loro, non per noi, perché noi mettiamo in conto quello che dobbiamo spendere, tot per l'appalto e tot per esempio per costruire un ospedale o una scuola richiesta dal Presidente della Repubblica. I pattini a rotelle, come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo. Lorenzo, ci sei? Scandaloso. Ma perché scandaloso? È la fotografia della realtà, è la fotografia della realtà, allora, quale scandalo? Adesso direi subito, c'è tempo, c'è tempo, aspetta. Io odio, ogni volta c'è tempo. Aspetta. Non c'è tempo. Sì, c'è tempo. Basta! Aspetta, no. stai calmo. Berlusconi dice di Tremonti, alla sanità così ordina supposte per tutti. Ma che gli farebbe fare non credere a me che Tremonti, che vada in un qualsiasi ministero che non sia l'economia, mi sta benissimo, perché è persona veramente intelligente. Che ministero? Ma può andare dove vuole, ne scelga uno. Può andare dove vuole, è un po' ambigua, ne scelga uno. Che ministero gli diamo? Pari opportunità. Beh, ha un fratello farmacista, diamogli il ministero della sanità. Allora, a Tremonti il ministero così della potrà sanità. Ordinare supposte a tutti gli italiani. Così potrà ordinare supposte a tutti gli italiani, e stanno insieme nella stessa coalizione. Basta fare una puntura e tutto passerà. Brunetta insiste con questa storia che i comici sono pagati da lui praticamente, no? Che noia Brunetta. Senti che dice Di Crozza, ti prego, senti che dice Di Crozza. Che effetto le fa la caricatura che fa Crozza di lei? La fa arrabbiare, la fa sorridere, e che effetto fa essere? L'ho vista pochissime volte, mi sono sentito un suo datore di lavoro, nel senso che grazie a me Crozza sbarca il lunario. Ora ti fa male un dito, Vabbè, dai, non ha bisogno Crozza di Brunetta per sbaccare il lunare. Adesso, francamente, dice anche che l'imitazione di Crozza su di lui è razzista, ma è normale se la facesse qualcuno. Se noi abbiamo sempre criticato le battute sul corpo, no? Però in realtà, quando sono fatte dai politici, ma quando le fanno i comici, i satiri, bisogna essere feroci in queste cose. Feroci, beh, dunque, puntare vai anche sugli aspetti fisici delle persone. Qual è il punto? Cosa c'è di male? Un po' di Grillo, che mi sento, voglio sentirmi meglio. Quando sento Grillo, mi sento sempre bene. Grillo, mettetemi qualcosa di Grillo. Due o tre giorni fa ero prima pagina con scritto Grillo incita Al-Qaeda a bombardare il Parlamento italiano. Ma sono, come fanno a fare ste robe qua? Ma seriamente? Mi sono arrivate 500.000 mail con scritto dai, forza, insisti, che forse ci siamo. Quindi gli si rigira contro. Ora un piede ti fa male, il dottore ti dirà. Abbiamo scoperto un altro grande personaggio dalle tribune politiche, quelle noiosissime, no? Che manda in onda la Rai, e non solo la Rai. Per me ce n'è uno solo di grandissimo. Chi è? Chi è? È il signor Fatuzzo, quello del partito dei pensionati. Ah, quello... che dice che solo i pensionati, mettiamoci tutti insieme. Quello solo il vento ci può fermare. Pensionati, se tu... avanti tutta. Ma pensionati cosa? Pensionati di che? Ma perché sopra tutti i pensionati devono stare insieme? Vabbè, tu hai fatto un partito, tu e tua figlia di pensionati in due. Siete, aspetta un attimo, Stefano De Luca, Partito Liberale, senti questo, vendiamo la marijuana nelle tabaccherie, questo è il numero uno, eh? Stefano De Luca, senti. Questo ha ragione. Siamo molto prudenti per quanto riguarda le droghe pesanti, ma la marijuana che potrebbe avere, secondo alcuni, e credo che sia così, anche degli effetti benefici sulla salute, certamente non fa più male dell'alcol o dei tabacchi. Sull'alcol e sui tabacchi lo Stato ci guadagna. Beh, io credo che forse se si decidesse di vendere la marijuana presso le tabaccherie. Ultima battuta, Laura Cesaretti. Le tabaccherie. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. È con noi chi, caro Parenzo? Indovina, è con noi chi? Lo introduciamo in questo modo. Signor Orsi? No, ragazze, no, te lo introduco in questo modo. Te lo introduco in questo modo, facendoti ascoltare una tua imitazione. Adesso te la mando. Intanto mettetemi villaggio. Pronto? Pronto, dottoressa Buitoni? Sì, chi parla? Sì, buonasera, la segreteria del professor Massimo Cacciari, posso passarglielo? Sì, volentieri, grazie. Grazie, buonasera. Pronto, ciao, sono Massimo. Buonasera, buongiorno. Io purtroppo sono in una serie di gallerie, per cui se va via la linea richiamerò. Sì, non ti preoccupare, volevo soltanto farti i complimenti per questa cosa di Ambrosoli che hai fatto, perché veramente bisogna fermare la Lega, ecco. Sì, ma io non so, a Milano sono diventati matti, guarda, sono stata coperta di insulti da tutti. Non ti dico Albertini, il fango che mi ha tirato addosso, ma non ho peggiore mai... Non hanno capito la gravità del momento. L'hai capita e sono convinto che hanno. Gabriele Albertini, buonasera. Buonasera e tanti auguri a Parenzo. So che oggi è il suo compleanno, quindi il simpatico David, auguri. Grazie. Non auguri, ma opere di bene. Ma non parlate, non parlatevi addosso. Ma non... No, ma è una cordialità normale, no? In fondo non possiamo negare di essere anche amici, al di là dei massacri che affronto quando mi chiamate in trasmissione, perché poi mi arriva sempre qualche problema dopo. Ma no. Voi vi divertite, però poi io ho da recuperare le cose che... Ma stavolta abbiamo massacrato la signora... questo scherzo l'ho trovato micidiale, davvero grandioso. Ma ha detto delle cose su di lei tremende, ha detto che le ha gettato del fango addosso. Politicamente che... sbagliato, bisogna fermare quel pazzo di Albertini, quel cretino di Albertini, solo tu in là. Riesce a farlo, ci provo anch'io a imitarlo, ma non sono bravo come ma la Borletti Buitoni invece come parla secondo te? Non lo so, non riesco a non la conosco abbastanza bene. Poi devo dire, le donne non riesco a imitarle, non sono così bravo come imitatore. Ma ha detto delle cose tremende su di te. Ha detto prima che li getti del fango addosso, vabbè, è quella un'altra cosa. Poi addirittura credo, che sei uno che tiene il posto al caldo al Senato, il sedere al caldo al Senato, che non sei un oppositore, che eri fino all'altro giorno eri con con Formigoni. Rispettabili, ci mancherebbe. Certo, ma è una signora, non posso, negargli la possibilità di dire quello che pensa, per carità. Com'è che faceva Fantozzi quando presentava? Com'è che l'hai chiamata tu? No, non me lo fate ripetere. Ma come no? Non voglio impegnarmi in una polemica che ormai mi sembra davvero capita. Dopo che non Petrus Bunecam, il Papa, no, Ubi Petrus Ibi Ecclesia, ecco, il Papa, il nostro Papa Monti ha parlato, ha detto dove sta la Chiesa, e quindi finiamola questa polemica. L'ha detto veramente dove sta la Chiesa il Papa Monti? Beh, ha detto che siamo insieme, no? Che abbiamo la lista civica, la scelta civica per l'Italia, con Monti per l'Italia, Camera e Senato, e Movimento Lombardia Civica per la Lombardia. Però scusa Albertini, lo dica la Borretti Buitoni, con Ambrosoli ci stanno pure i comunisti, c'è Di Pietro, c'è di tutto con Ambrosoli, Ingroia mi sembra. Appunto, ma lo dica, lo dica. Per questo che mi pare solito questa linea, ma proprio per questo è stata smentita dal Papa, il Papa ha parlato. Roma locuta causa finita, visto che continuate a solleticare. Monti è come il Papa, È come il Papa, esatto. Per lei è come il Papa. Beh, speriamo che non si dimetta. Beh, appunto. Questa me l'aspettavo. Me l'aspettavo. Dico, adesso diranno. Senta, mi dico una cosa. Per lei chi vince in Lombardia? Me la dica tutta la regione Lombardia. Mi dica la sincera verità. Le mie previsioni? Sì, le sue previsioni. Allora, in Lombardia, regione Lombardia, vince Ambrosoli di un'incollatura, di pochissimo. Ma questo è anche Ambrosoli. Il suo auspicio, diciamo la verità, perché è anche il suo auspicio. Mette insieme tutti i voti della sinistra estrema, della sinistra moderata, tutte, perché lì non c'è, diciamo, la divisione, la scissione interna. Sì. Mentre al Senato, poiché Ingroia farà la sua lista e non si apparenta con Bersani, eccetera, allora prevale il centrodestra, quindi il premio di maggioranza lo prenderà Berlusconi. Sì. Questa è la sua visione. Possiamo dire, scusi, ma allora Monti perde su tutta la linea in Lombardia. No, cioè. Monti farà un bel risultato. Quello è scontato, che lei lo dica. E sarà comunque decisivo, condizionante per il futuro governo. Ecco, se lei dovesse entrare in Senato, come è certo, perché perderà in Lombardia. Poverino, aspettate che perda. Vabbè, però perde, lo dica sinceramente, perdo in Lombardia. Diciamo, se dice che vince Ambrosoli, lei può dire tranquillamente perdo in Lombardia. Sì, va bene, io parlo di probabilità, non di certezza. No, quindi però perde in Lombardia, mettiamolo nel conto. Ragionevoli probabilità che vada così. Che io perdo in Lombardia. Ecco, lei al Senato voterebbe mai una fiducia da senatore, una fiducia a un governo Bersani-Vendola? Con Monti dentro, con Monti. Cioè, lei voterebbe mai una fiducia a un governo Bersani Vendola Monti? Il Papa si esprimerà, no? Ubi Petrus Ibi Ecclesia. Se ci sono dei progetti che possono essere condivisi, non ci sono delle preclusioni su chi li condivide. D'accordo, ma lei potrebbe votare un governo, lei Albertini, lasci perdere il Papa, la fiducia a un governo dove Vendola magari fa il vice premier? Ripeto, non è una questione di persone. Beh, non è che conta solo il Papa, però. È una questione di progetti. Vabbè, cioè, non conta solo il Papa, conta pure Albertini. No, ma adesso lasciamo il Papa della nostra coscienza, cioè quello che uno fa. Lei, un governo dove c'è dentro il signor Vendola, allora, lo voterebbe o no? Io ho un pensiero diverso da quello che del Papa. No, adesso mi lasci finire. Non ho un pensiero diverso da quello che ho sempre avuto, nel senso che non ho mai inteso uniformarmi pedissequamente a una linea imposta dall'alto, sono sempre stato, nel mio modesto caso, un indipendente. E dunque? E quindi valuterei qualsiasi situazione con l'assoluta indipendenza. D'accordo, però per la sua sensibilità, un governo... che non ci siano preclusioni sulle persone, però ci sono preclusioni, o meglio, mettiamolo in positivo, ci sono condivisioni sui progetti. Se una legge è buona o un orientamento... Ma quello vale per sempre, però un governo con Vendola vice premier lo voterebbe sì o no? Dentro Monti, scusi, noi siamo montiani, con chi dobbiamo stare? Vabbè, quello che decide il Papa va bene. Traffico, no, è una cosa che si decide insieme, no? Cioè, sono dei non è che sia una dittatura. No, ma ho capito. Torniamo subito. Traffico. è vero, Albertini, che lei sa fare Ratzinger, però? No, assolutamente, purtroppo no. So fare un papa storico, ma molto lontano, che nessuno più ricorda, almeno nella voce. Paolo VI. Paolo VI. E come fa Paolo VI? Mi fate fare sempre questi lavori strani voi, non il primo lavoro, sempre il secondo. Il terzo. Non so cosa vuole che faccia la... No, ma l'avvocato oggi... Bisogna per chi fare l'endore che faccia la benedizione del Papa. Sì, esatto. Sì. Dunque, la benedizione del Papa... non so se possiamo usare tanto. Ma però, il Papa ormai è andato quel Papa lì. No, lo so, però insomma... È andato sempre, quel Papa. È una figura... Mi fate fare qualcosa che non so se... Vabbè, allora è facciamo... corretto. L'avvocato per chi voterebbe oggi? L'avvocato per chi voterebbe? No, vabbè, mi avete convinto. La faccio. Grazie a tua, ma quesimo stabile, mentibus nostri si infonde... Ut qui angelo nunziante, Christi fili tuo incarnationem cognovimus, per passione meius et crucem, at resurrectionem gloriam perducamus, per eundem Christum dominum nostrum, amen. Ma questo è Paolo VI? Questo è Paolo VI. Il nostro interessamento fraterno si rivolge a quelle popolazioni che soffrono la fame, che soffrono la miseria e ancora l'oltraggio del sopruso del potere. Mai come oggi la società umana ha bisogno dell'aiuto corroborante e vivificante di Cristo, e noi che indegnamente ne siamo i vicari su questa terra non possiamo esimerci dal richiamare la cristianità tutta a questa visione scatologica e vivificante. Gli può bastare? Senta, ma Berlusconi che fa l'elogio delle tangenti in India, che ne pensa lei? Ma l'avete equivocato, lui credo che faccia l'elogio del contratto di mediazione e della provvigione dell'agente di commercio, è una cosa diversa. Intanto credo hanno arrestato Alessandro Proto, pare che abbia arrestato Proto, ve lo dico subito oggi, è la giornata degli arresti. Vabbè, lasciamo perdere, è un finanziere Proto? Che adesso stava per comprare il quotidiano Pubblico. Senta, sì, d'accordo, però fa l'elogio delle mediazioni, però dice anche che in certi paesi le pratiche sono quelle lì. Non solo in certi paesi. Esiste un istituto contrattuale perfettamente legale. Dunque non ha detto una bestialità. Che nei codici civili, adesso io non l'ho ascoltato la fonte, però credo che non si sia azzardato a dire che le tangenti sono legali. Non in credo alcuni che paesi ha detto, è normale. In alcuni paesi in alcuni paesi non è così strano pagare i funzionari. Così. Bene, ma non credo che sia un argomento, come posso dire, formalmente accettato dalla legge di quei paesi. È tollerato in maniera surrettizia, cioè non si deve sapere, non si indaga, non si lascia correre, però non credo che sia ufficialmente consentito questo comportamento. Tutt'al più ci sono, credo, dei fatti. Ma quando i mediatori immobiliari, no, è capitato a tutti di vendere un appartamento, un terreno e di corrispondere una provvigione a chi ha messo in contatto la domanda. Ma oggi per chi voterebbe l'avvocato? Ci faccio un po' l'avvocato Agnelli, per chi voterebbe? Credo che la migliore offerta politica sia data dal professor Monti, persona credibile in campo internazionale, profondo conoscitore delle relazioni tra stati, governi, grande leadership europea. Direi, voterei per lui. Beh, questo è un grande endorsement che viene dall'aldilà, è una cosa pazzesca, proprio questi mesi. Verosimile anche. Senta, ma ha visto come sembra un po' nei guai Maroni per Finmeccanica? Lei l'aveva previsto, Ma per la verità avevo avuto, come tutti, perché è finita su diverse, Dagospia, l'inchiesta, cioè diverse fonti, diciamo, del web e in qualche giornale, insomma, si diceva quello che adesso sta venendo a compimento, no? Che c'erano dei rapporti da chiarire tra questi fatti e ambienti vicini alla Lega e a fatti di questo genere, ma niente di più di questo, non è che avessi accesso alle indagini in corso, ci mancherebbe. Sì, ma la politica ha delle responsabilità, secondo lei, o no? in particolare la cioè Lega. Maroni ha delle responsabilità in quello che sta succedendo a Finmeccanica o no? Onestamente non posso dirlo e non mi sento di dirlo, per carità, nessuna illazione, sono argomenti molto delicati che riguardano persone, per quanto si possa essere competizione, però non mi chiedete di essere... Senta una cosa, Albertini, ma se si trovasse di fronte a una scelta, Ambrosoli e Maroni, lei per chi vota? Voi siete dei monellacci. Nel momento in cui sono in campo anch'io, ma lei ha già, per già sa che perde, ha detto, l'ha detto pure Camera lei. E con tutta modestia per Albertini in regione, perché devo votare un altro se ci sono. Ma lei è sicuro che nel segreto dell'urna vota Albertini e non Ambrosoli? Voi mi mettete in uno scenario che non esiste, perché mi fate fare queste favole? E dopo devo fare il voto di giunta anch'io. Un ballottaggio, lei per chi voterebbe tra Ambrosoli e Maroni? Mi dica la verità. Non ho pensato a questa eventualità perché è nell'irrealtà perché non c'è il ballottaggio. Che vuole che le dica che ho più rapporti di quello l'abbiamo già detto. E anche diciamo di corrente frequentazione, non così come un amico personale, ma insomma è milanese anche lui, abbiamo una nipote, io ho una nipote che è sua amica, insomma una serie di situazioni, è certamente Ambrosoli, ma questo è un argomento nulla. Che riguarda i rapporti tra persone. Poi sul piano politico posso avere anche delle contiguità con lui personalmente, non con la sua squadra, soprattutto quella parte estremista della sinistra ideologica e massimalista che gli farà vincere le elezioni, però gli renderà difficile il governo. Senta, ma la battuta di Berlusconi, quante volte viene, si giri, allora può andare alla donna, l'ha vista su internet? Sì, naturalmente. L'ho vista in televisione perché l'hanno riproposta più volte e mi è capitato di vedere. Mi dica la verità, una cosa volgarissima o no? Insomma, devo dire che non mi è piaciuta, ecco, posso Vabbè, dire non mi è piaciuta. Mi limito a questo. Poi, siccome oggi è prudentissimo, oggi è prudentissimo. No, ma è il compleanno, poi San Valentino, è il compleanno di Parenze, questo ci rende tutti allegri e però buoni. Albertini, io le devo fare un appunto, lei in questo momento affettuosi. A proposito di San Valentino, oggi Formigoni ha aperto il Pirellone, l'ultimo piano agli innamorati, ma quella frase è una bellissima vista. Sapete quello che si dice scherzando? C'è tre motivi per fare il presidente degli Stati Uniti, no? Allora si scherza e si risponde. Beh, El to Chief, il famoso saluto al capo. Poi Camp David e Air Force One, no? Ecco, un motivo per fare il presidente della regione, l'ufficio del presidente della regione, ha questa vista sulle Alpi e sulla Terra. Ma lei non ci arriverà, Albertino. No, io non, la voleva fare tanto, poi è successo un casino. Però lo trovo bellissimo. Senta, ma quando lei disse quella cosa lì, non stia zitto Formigoni, se no parlo io, a cosa si riferiva? No, ce lo può svelare? Io non ho detto, gli ho solo segnalato di non inquietarmi su argomento liste e candidature perché avrei qualcosa da dire che può imbarazzarlo. E che cosa? Se non voglio imbarazzarlo, non lo dico. E lo imbarazzi. Ma non devo imbarazzarlo perché si è rimessi i guanti, si comporta da gentiluomo e non mi inquieta più. Perché devo trattarlo male? Ha un sacco di guai, te credo. Lo inquietano altri purtroppo in maniera ben più seria di come potrebbe. Senta, ma lei è ancora presidente di Eddie Power? No, da molto tempo non lo so. Che c'è, più. Parenzo? Che deve... No, volevo dire che Formigoni, anziché aprire il Pirellone, non dovrebbe aprire e raccontarci le cose di Dacò e della vicenda nelle quali è implicato, più che aprire il Pirellone? Beh, ma il giorno di San Valentino è meglio che pensi agli innamorati, no? Già ogni giorno ha la sua pena, oggi c'è un giorno di gioia, quindi perché non fare... baciare gli innamorati con la vista delle Alpi in un spazio aperto... Anche due omosessuali? Come? Anche l'uomo sessuale si potrebbero baciare al Pirellone, perché no? se lo gradiscono, sì. Che gaffe che ha fatto sulla storia del ma figlio. Ma la gaffe l'avete inventata voi. Ma che abbiamo inventata noi, Albertini? Io le voglio bene, ma non si può fare, non si può dire che un bambino cresce e può diventare omosessuale in una famiglia di omosessuali. Allora, perdonate, se vogliamo non c'è più tempo. Tornare sull'argomento. Avrei potuto portarvi degli argomenti molto seri. E adesso dopo il traffico, perché dopo il giornale radio 800 24 00 24, il giornale radio. In prigione, proprio più in prigione, e devi Allora, caro Parenzo, non c'è niente da ridere ovviamente, però noi buttiamo tutto un po' in caciara, diciamo la verità, non ci fermiamo davanti a niente e a nessuno. Oggi nell'ordine hanno arrestato una persona peraltro molto molto cara al sottoscritto, Angelo Rizzoli, poi adesso Proto, Cellino, presidente del Cagliari, Baldassarri, Baldassarri MPS, sì. Pistorius, per una cosa completamente diversa, perché ha sparato alla fidanzata. Sei tu. Eh? Il prossimo sei no, tu, speriamo sicuro. Di no. E poi adesso il signor Proto, il quotidiano libero.it, il sito sì. di Libero, una cosa strepitosa, arresti a raffica, le toghe fanno gli straordinari, chi sarà il prossimo a finire in manette? E c'è un elenco di persone, no, non ci sono io per fortuna perché non sono così famoso, Maurizio Crozza, Fabio Fazio, il Papa, Luciano Littizzetto, Mario Balotelli, MP il cane di Monti, il Gabibbo, Marco Travaglio, Antonio Ingroia. Lo sai chi vince questo sondaggio? Il cane di Monti. No, il Papa. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglio. Nuovi avvisi di garanzia ai vertici Montepaschi, ostacolarono la vigilanza. Manette all'ex capo dell'area finanza Baldassarri preparava la fuga a Londra. Per la costruzione dello stadio arrestati il presidente del Cagliari Cellino e il sindaco di Quarto. A Roma fermato Angelo Rizzoli, bancarotta fraudolenta. Berlusconi, tangenti per le commesse all'estero ci sono sempre state. Basta moralismi, Bersani basta tangenti e basta Berlusconi. Monti, distanze anni luce da Vendola, esodati ammortizzatori sociali, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà non ha titoli per darmi lezioni. Maroni e Renzi, ospiti al TG3. Il Papa al clero, vicino con la preghiera ma nascosto al mondo, si stringono i tempi per il nuovo vertice dello IOR, smentite le voci sulla nomina del belga De Cort. Pistorius, il campione senza gambe, mito dell'atletica, spara e uccide la fidanzata, l'ho scambiata per un ladro, ma per la polizia è omicidio. Un miliardo di donne scendono in piazza in tutto il mondo per dire mai più a passo di danza, mai più violenza, mai più femminicidio. Tra tutti questi arrestati è andata bene a Minzolini, che comunque non sarebbe stato arrestato, questo è certo, ma oggi, bisogna dirlo, è stato assolto dall'accusa di peculato per i soldi spesi con la carta di credito della Rai. E io questo... sono felice. Sono no, ma felice. Bisogna dirlo, perché è stato massacrato, ma letteralmente massacrato. Ma io che sono stato uno dei primi da questa trasmissione, beh, da l'hai preso pulpito. Per il culo, l'hai preso per il culo, l'ho a lungo. L'ho preso per il culo mille volte, continuo a farlo rispetto ai suoi editoriali, rispetto a come condusse il TG1... facendolo diventare un avamposto del Popolo della Libertà. Adesso chiedi scusa perché l'hai preso per il culo sulla carta di credito. Chiedi scusa. Dopodiché dico che sono molto felice che Agostino mio, anzi l'onorevole Minzolini, domani sarà ospite qui. Ecco, e quindi gli chiederò scusa in faccia, non cambia il giudizio politico sul suo modo di fare giornalismo, ma questo è un altro discorso, però sono felice che non ha usato la carta di credito per farsi i cazzi suoi. Grillo, dopo mezzanotte ci sono solo anziani su internet, però Grillo ripete sempre le stesse cose, vai in ogni piazza e ripete le medesime cose, comunque è sempre piacevole ascoltarlo. Come un politico, Grillo, appunto. Dopo mezzanotte, no, ma sentiamo, scusate, non mi è venuto in mente, sentiamo il mitico Luttua che ieri sera alla Zanzara, l'altro ieri sera alla Zanzara, su Grillo, perché dice Luttuak, Edward Luttuak, che gli Stati Uniti hanno paura di quel pazzoide di Grillo. Ma che con chi stai parlando? Si può sapere con chi stai parlando? Dice a me? Sì, con chi parli ogni tanto? Mi ascolta? Palermo qui. Ma chi se ne frega di Palermo 15? Senti Luttuak. Senti Luttuak. L'unico attore sulla scena italiano che veramente preoccupa è Grillo, perché lui rappresenta il populismo senza contenuto, vuol dire urlare in piazza. Lui e il suo amici iraniani, lui urla in piazza e basta. Sei avvocato, serio e preparato, ridi e scherzi poco, ma conosci tutte le regole del gioco. Allora, in prigione, sì, anche tu. E lui ha difeso Ahmadinejad, tutti possono avere anche due mogli iraniane, ma lui ha difeso Ahmadinejad, dice che è stato mal tradotto, mal capito, è una brava persona. Sì, addirittura, perché no, Ahmadinejad è ottimo, perché no, e così via. Questo tipo di, ma è populismo sfrenato con qualche idea pazzoide aggiunta. Grillo e gli anziani. I poveri pensionati non vanno su internet, quindi perché non va in televisione? Signori, è sbagliato questo concetto. I pensionati ci vanno in internet, come? Io ho 65 anni, non sono un pivello, ho dovuto imparare, avete i nipoti, ma adesso è il contrario, sono gli anziani che insegnano ai nipoti ad andare su YouTube e su internet. Perché abbiamo fatto due indagini dopo mezzanotte su internet, sono solo pensionati, eh? Dite di no? Eccoci qui, 800 24 00 24. Ho un ospite pazzesco al mio fianco. Chi c'hai? Chi c'hai? Ho un ospite pazzesco, è un grande cronista del Fatto Quotidiano. Chi ospite è? Alla Zanzara, ha trovato per strada all'improvviso Marco Lillo. Te lo passo. Beh, siamo al top qui. Caro come, Marco, come stai? Come sentire dalla voce non sono io, e quindi è un falso. Ma non è vero, sei tu, sei tu, come no? No, senti, non ho mai avuto questa voce, quindi sarò una ragione. Non sei tu? Non sei tu? Ho perso la voce. Ma te stai a fare un culo così su Filmeccanica, amico mio? E la paura della zanzara mi ha fatto andare via la voce. Ti ha bloccato. Ridagli il telefonino, vai. Ciao. Ciao Marco. Albertini? Allora, pronto? Sì, sì, sono in linea. Eccoci posso qui. Posso chiedere una cosa io? Sì, come no? Mi piacerebbe, siccome l'ottimo, veramente sì, ottimo Parenzo è uno splendido bravo imitatore di Lutwak. Sì, esatto, mi piacerebbe bravo poterlo intervistare su Grillo e Ahmadinejad. Posso fargli una domanda? Come no? Faccia, Albertini, faccia. Ecco, allora, Davide fa sì Lutwak. Beh, certo, è chiaro. Sì. Professor Ludo, lei che è un acuto osservatore dello scenario italiano da oltre Atlantico, come vede questa situazione che sintetizzo nel populismo demagogico di due anime, l'Iran e l'antipolitica italiana in Grillo? Come vede questo scenario? È inquietante per il suo paese? La CIA può fare qualcosa per salvarci? Noi pensa che il grave problema italiano si chiama Vittorio Agnoletto. Ma che c'entra Agnoletto? Questo comunista che vuole togliere tutto agli imprenditori, noi pensa che l'Iran è sì il problema, ma più grave è avere Agnoletto bandiere della pace. Ma non è nemmeno candidato Agnoletto, scusi professore. Qualche pericolo che metta delle bombe nelle gallerie della TAV a suo giudizio? Potrebbe esserci questo pericolo. C'è questo pericolo. I signori di NOTAV sono sì terroristi, questo è molto chiaro. Noi con la CIA stiamo studiando un piano di, si dice, bombardamento, che ovviamente non piace a molti, ma è soluzione drastica, ripenso, soluzione well, drastica, soluzione radicale, with tank. Noi usa in genere quando c'è problema, fai piccolo bombardamento, tutti poi Agnoletto, bandiere, pace, peace. Ho capito, dunque no, soluzione peace con i NOTAV, qual è? Bombardamento della zona della NOTAV, qual è? Grande David, grande, non potevo perdermi questa amica. Bombarda e poi Finmeccanica costruisce con appalti americani, questa è soluzione, penso io, migliore. Migliore, non c'è dubbio. Qualcosa di keynesiano. Albertini, ma secondo lei i NOTAV sono un po' vicini a quelli che erano i terroristi negli anni 70? Adesso non esageriamo, le bombe non le hanno messe, non hanno ammazzato nessuno, hanno pestato però e le hanno anche prese, devo dire. Tutte e due le cose. Beh, insomma, però sono movimenti molto estremisti. Mi viene in mente una slide che ho visto recentissimamente, sì, prima di tutto questo turbillon della campagna elettorale. Parlamento europeo, riunione con deputati francesi e italiani sulla Torino-Lione. E c'era Virano, il commissario, ma quando altri, si mette varie autorità, quando a un certo punto proiettano una slide ed è indicata la tratta, no? con i colori dei comuni favorevoli in verde e quelli invece ostili in rosso, ed era una netta prevalenza di quelli verdi, quindi allora tutti confortati, poi però guardiamo meglio e quelli rossi erano al di qua delle Alpi. Con il disagio, non erano italiani. Però scusi, mi dica una cosa. Che si sono fermati per i vincoli che abbiamo posto. Mi dica una cosa, cosa direbbe l'avvocato della candidatura di Giannino, di questa corsa meravigliosa di Giannino? Cosa direbbe il mitico avvocato? Ma veramente di Giannino mi piace soprattutto il nome, perché mi chiamo Gianni e forse potrebbe essere in sedicesimo qualcosa che anch'io immagino, un po' dandy come me e un po' liberale, economista come sono stato, ma se io sono Gianni che lui è proprio Giannino e non gli darei nessun Oscar. Senta, qua perché devo andare a un, va bene, a un, va bene, tanto, tanto sui froci, perché io li posso, grazie, chiamare froci, si possono chiamare froci la prossima volta ci, ma i froci si può dire froci, sui documenti della società di pedagogia italiana sul presidente, ma si può dire froci, vedete che non sono, non sono così reprobo, no, come no, per carità, ma, lei, ma si può utilizzare la parola froci, Albertini? No, quella è una volgarità. Ma no, ma che io sono stato stoganato, no, da no, tutti, sono stato stoganato è da una tutti. Volgarità. Comunque è quella una su Giannino, che su hanno Giannino usato, e che hanno usato quando non gli ho dato il Gay Pride. Sì. Mi ricordo, sono venuti sotto Palazzo Marino, io non c'ero, ma sì, ho visto dei servizi e mi hanno, hanno inneggiato, tra virgolette, alla mia presenza, sì, e alla negazione del, del patrocinio, gridando: Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quindi non mi è piaciuto sentirmelo dire, quindi stupendo, non voglio che nessuno sia chiamato Albertini, così, vieni giù, suono, giù, che sei frocio pure tu, Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu, stupendo. Borsa, grazie, Borsa. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, e grazie. Ancora auguri a Davide. Grande luce. Ciao, ciao, ciao. Grande luce. Grazie. Beh, cari ascoltatori, mettiamo questa canzone non per mettere i soliti audio che abbiamo raccolto in questi mesi intorno a Giannino, ma perché ce l'abbiamo qui, Oscar Giannino, buonasera. Eccoci qua, buonasera, un caloroso abbraccio a tutto il pubblico della mitica coppia Cruciani Parenzo e anche auguri di compleanno a David. Grazie, grazie, abbraccio l'Imu, basta l'Imu, basta l'Imu. Ma che c'entra l'Imu adesso, cosa c'entra? Innanzitutto era preoccupato Giannino del fatto... Sì, ma non c'entra niente, non dice basta l'Imu, già non hai capito nulla, non dice quello basta l'Imu. Quello è un altro, quello è un altro. Quello è un altro che dice basta l'Imu, non confondere le cose, scusa, non confondere le cose. Allora, innanzitutto era preoccupatissimo perché dice oggi hanno arrestato tutti, mi sono preoccupato. Siamo ancora più di lì, io sono ancora più di lì. Ma questa è la notizia. Una volta ti dovevano arrestare, la dico, stava ordinando. Ma avete letto? Ma sì, io sapete che l'ho appreso anch'io leggendo la giornata, ci sono cose pazzesche. Cioè la Digos aveva praticamente detto che tu dovevi essere arrestato, com'era sì, la storia? Poi sei stato prosciolto totalmente esatto, da quella vicenda. Però all'inizio di questa vicenda anni fa, sì, non il pubblico ministero, che ovviamente poi il pubblico sì, ministero mi ha archiviato, però in questo primo rapporto di polizia si chiedeva il mio arresto, l'ho appreso sul giornale, stavo cadendo sotto il tavolo. Era una vicenda che riguardava una televisione. Una televisione, sulla quale io però non c'entravo niente con le fattispecie di reato. Detto questo, chiedevano l'arresto. Hai capito? Il meglio di Giannino, il meglio di Giannino negli ultimi mesi. Dai, su, mandatemelo, mandatemelo il meglio. Lo stesso rispetto della coerenza che ciascuno di noi è tenuto ad avere nella propria vita, anche nella vita pubblica di questo paese. È così che vinceremo! E ora avanti alla campagna! Noi non saremmo andati a regalare un voto a questi miserabili! Ci danno una mano, non chiedono alla gente di non sprecare il voto. Hanno paura! Basta! Basta! Basta! Ecco qui, 800 24 00 24. Caro Oscar, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa. Perché Berlusconi anche oggi, credo, insiste così tanto su di te? D'accordo, i sondaggi, eccetera, eccetera, la Lombardia. Perché c'è questa ossessione? Ma non lo so, il criterio credo che sia quello che... Lui continua a immaginare un mondo nel quale basta dirsi contro lo Stato, con meno tasse, meno spese, eccetera. Allora automaticamente non puoi che stare con lui. Il problema è che non è che basta dirlo, bisogna anche farlo. E lui non l'ha fatto, questo è il problema. Io infatti ripeto sempre, come una moglie se ti vede tradirti per 18 anni, ma quando mai ti tiene? Io lo dico sempre, questo è il punto. Però lui non lo concepisce, è più forte di lui. Ma oggi sei vestito pure un po' sobrio, però. La campagna elettorale purtroppo mi spinge a essere un po' così traditore, cioè, del mio abito. È verde, gilet verde, camicia verde, un po' leghista, sì, no, una cosa, pantaloni cachi, militari, sì, sì, eccetera. Terribili. Però adesso dici tutta la verità sui vestiti. Innanzitutto, quanti soldi spendi per vestirti? ne spendo molto meno di quanto sembri, perché ma che fa... molto meno su, ma non dai. È vero, perché chi li fa me li dà a costo industriale, poi li vende, cioè, ragazzi, tipo un vestito tuo di quelli, quello più caro quanto l'hai pagato? Il più caro che ho pagato l'ho pagato 900 euro. Il più caro 900? Sì, cioè, perché quello li vende a 3000, però io 3000 non glieli do, lui siccome li vende a 3000 me li fa. Ma è vero che li disegni tu, no? Cioè, li disegni tu. È vero che scelgo tessuti molto spesso, è vero che le fogge, le impunture, i tipi, sì, questo lo posso confermare, non c'è problema. Tu tutti i colori, sì, i disegni, sì, le follie, tu... sì, cioè, ma... follie, insomma, per alcuni beh, sono follie, per altri no, ti pigliano per il culo pure per questo in campagna elettorale, là sei liberale colorato, che però è bella come cosa, come immagini, liberale, tu ti sei incazzato l'altro giorno, hai sbagliato secondo me, con Leone, là, liberale colorato, un po' colorato, voleva dire... Così Leone è un buono, dai, su. Ma lo usano come... Eri incazzato per altre cose, tu eri incazzato per altre cose. Ti sei incazzato perché se le pigliano sempre con le cose. Guarda che ti fa... No, cioè... ma non posso dire quello. Quando arrivano a dire clown, allora uno lui un po' capisce, non ha detto clown. Ma sto gatto sbranava o no? Quello di Sallusti? No, la cosa di Sallusti è veramente avvenuta. Però che ci posso fare? Il mio gatto aveva questa predilezione. Per Sallusti, ogni volta che lo vedeva. No, è capitato una volta. È capitato una volta. Però detto questo, povero gatto... Cioè... Se l'è presa pure no, con la tua malattia, perché... dicendo che andavi nel frigorifero. Sì, su questo preferisco sorvolare, perché le cose sulla malattia sono veramente una roba che mi sarei evitato. No, tu non sai, Giuseppe, che il gatto di Oscar, io sono andato una volta intervistato quando lavoravo a Tele Lombardia ancora, effettivamente lui mi spiegò che il gatto di Oscar è come un uomo. Cioè, quando vede uno che gli sta sui coglioni, così mi disse Oscar. Questo arriva. Questo era vero. Ti guarda e quindi cioè, al tuo gatto stava sui coglioni Sallusti. No, io questo non lo so, però era vero che Artù, siccome stava sempre sulla mia scrivania, in alcune occasioni, quando capiva che c'era uno molesto, non sto parlando in questo caso di Sallusti, dopo un po' si metteva lì tra la linea di mira tra i miei occhi e quelli del. Capitò con un industriale, figlio di un industriale, che fu dopo un po' aggredito al gatto e scappò urlando. Ma oggi quanti ne hai? Oggi ne ho tre. Tre, come si chiamano? Si chiamano Topolò, Topolà e Topolù. Ecco, sento un gatto in sottofondo. Ma questo abbiamo fatto la registrazione dei tuoi gatti veri. Esatto, la registrazione dei tuoi veri gatti. Topolò, Topolà e Topolù. È così, è così. Ma nemmeno sulla storia delle tangenti all'India ha ragione Berlusconi? Dicendo... No, no, scusate, no, lui non può dire basta col moralismo sulle tangenti. Lo Stato, proprio perché quelli vendono armi ed è una materia delicata, dovrebbe dire ai manager, primo, questo si fa, questo non si fa. Poi quando ci sono le indagini dovrebbe intervenire automaticamente per dire fatemi capire perché io per difendere l'azienda vi devo mandare a casa, oppure se è tutto infondato vi difendo. Lo Stato italiano azionista non fa né la prima né la seconda cosa, e lasciamo Finmeccanica appesa da anni sotto le indagini a essere fatta a pezzi. Questo per il quadro generale. Però ragazzi, lui dice che in alcuni paesi è una prassi normale oliare i funzionari. Ecco, diciamo. Capito, però in alcuni paesi, ma il problema è che i nostri manager devono operare secondo le leggi del nostro paese, questo è il problema vero. C'è il reato di corruzione internazionale, dunque non si fa. È chiaro che no, cioè se tu identifichi dei mediatori deve essere una mediazione che per percentuale sulla gara, per identità del mediatore, per il fatto che faccia quel mestiere. Vabbè, ha detto un'altra cazzata. Mi dispiace doverlo dire, ma proprio direi di sì. Io infatti ho commentato dicendo che si stupisce che Berlusconi difende le tangenti, alzi la mano, perché è proprio sbagliato dire una cosa simile. Vi aggiungo. Però è vero come dice lui che i PM stanno distruggendo quelle aziende, o quelle aziende sono distrutte da altre cose? No, il problema è che lo Stato azionista deve preservarle. Il PM, come sappiamo in Italia, apre il fascicolo e va avanti e non si deve occupare di altro, giusto o sbagliato, è così. È lo Stato che non deve lasciare Finmeccanica, Eni, Saipem per anni appesa e stando con le braccia conserte a vedere che viene fatta a pezzi dai concorrenti. Lo Stato azionista ha il dovere. Monti doveva cambiare. Ma certo che doveva cambiare. Perché non l'ha fatto? E perché cosa c'è dietro? C'è dietro il fatto che non ha avuto il fegato per farlo. Questo è il punto vero. Ma qualcos'altro era protetto da qualcuno? Bloccava? Chi lo bloccava? Ah no, in questo caso il problema non è chi lo bloccava, il problema è che bisognava avere il fegato di dire giro pagina invece che vado avanti. E invece sono andati avanti in questo. Il governo di centrodestra con Tremonti ministro e il governo Monti con prima Monti e poi Grilli sono la stessa cosa. Se volete la mia opinione, Grilli c'era con Tremonti e Grilli c'era con Monti e ha fatto lo stesso errore. Senti, quando tu hai detto una volta Monti è uomo della Fiat, che volevi dire? Volevo dire che nell'ordine c'è un'orma di conflitto di interessi in tutta l'iniziativa di Monti. Sì. E qual è il conflitto di interessi tra lui e la Fiat? Cioè lui è stato nel consiglio di amministrazione? Dove è no, stato? Ma no, non è quello. Lui è stato consiglio di amministrazione, però uno sta nel consiglio di amministrazione. Cioè, io credo che Obama, per esempio, nella sua telefonata, e non solo nella sua telefonata, Obama è, siccome ha scelto lui, Marchionne, come l'uomo a cui dare la Chrysler e così via. Allora, a Obama i repubblicani, un po' il sindacato, dicono: oh, guarda che qui se la Fiat non si compra nel 2013 la quota di Chrysler, noi attacchiamo e rompiamo le scatole. A Obama questo non piace. Quindi Obama ha detto: fai in modo che il prossimo governo in Italia abbia chi si batte per non rompere le scatole alla Fiat in Italia. Allora, questo è un interesse della Fiat, capisco, un interesse del Chrysler, capisco che per questo uno si metta a poi a candidare i fornitori Fiat e Ferrari, vada a Menfi quando era già noto a lui che partivano 2 anni di cassa integrazione per dire di cui parte il futuro. Ecco, secondo me lì c'è un bel conflitto. Cioè, tu vuoi dire che l'America ha un interesse, in particolare gli Stati Uniti, hanno un interesse al fatto che Monti sia presidente del Consiglio perché garantisce alcune cose? Sì. Io questo lo penso esplicitamente, oh, non è mica come lo invento, cioè chiunque segua l'auto sa che Obama si è molto, per così dire, dato da fare più volte di fronte alle critiche che naturalmente fiorivano nel dibattito pubblico americano. E conflitto di interessi qual è? Beh, conflitto di interesse è che, scusami, se la Fiat avrà o non avrà i soldi per comprare questo 40%, perché le leggi americane ti obbligano a comprarlo con i tuoi utili, non quelli di Chrysler, ecco, beh, questo è ovviamente una grande vicenda da fare, ma che c'entra la politica? Perché la politica deve mettersi a garantire e a coprire Fiat? Ma lui si candida anche per questo? Secondo me anche sì, ma si vede, ma perché ha scelto, secondo te, il presidente della Ferrari come unico selezionatore dei perché? Laici? Perché? Perché? Beh, ma c'è anche questo aspetto. Cioè, per garantire la Fiat Bomba su alcune partite, per garantire... grande, Bombassei è un grande imprenditore, è stato candidato in Confindustria, sì, sì. Io lo rispetto tantissimo, però Bombassei è un fornitore Fiat e Ferrari ed è anche socio di NTV, che è quella che fa concorrenza Trinitaria, un altro conflitto di interesse in Parlamento. Quindi candidano ed eleggeranno probabilmente il primo editore di reti televisive private in Liguria. Un altro conflitto di interesse, c'era bisogno di aggiungerlo. Scusami Oscar, ma tu dici che Montezemolo, chi è che ti ha fatto, a un certo punto c'è stato un tentativo di avvicinamento con la lista Monti, mettiamola così. Sì. Chi è che non ti ha voluto? Montezemolo o Fini? Alcuni dicono Fini perché Fini, secondo me conta poco in questa partita Fini, ma comunque insomma temeva di essere fatto fuori sostanzialmente dal Parlamento perché tu potevi prendere più voti e dunque lui sarebbe stato quello, in teoria, se tu non arrivavi al 2%, quello che aveva i parlamentari e lui no. Cannibalizzato. Lui o Montezemolo? Hanno messo l'ultima, la parola definitiva. Tu una volta avevi pure un conflitto con Montezemolo, poi c'è stato un riavvicinamento. No, ma quello che mi ha detto il presidente Monti, che mi ha ricevuto dopo che io gli avevo fin dall'inizio, ha detto: noi siamo qua se vuole parlare di programma. Noi ci siamo visti e solo dopo che lui aveva già chiuso il suo accordo con Fini Casini e la lista civica con Montezemolo e Sant'Egidio come selezionatore. Sì. E mi ha detto esplicitamente, perché siccome c'è un grande rispetto e continuerà ad esserci tra me e Monti, Monti mi ha detto: guarda, c'era qui gente che non ti voleva, come sai. Il come sai viene dalla rottura già di ottobre, quindi sono Italia Futura e Montezemolo, non è un mistero per nessuno. Cioè Fini non c'entra niente? Fini si è aggiunto dopo, perché l'accordo con Fini è stato fatto poi dopo rispetto al fatto che ma non perché c'è questo conflitto da te e Montezemolo? Guarda, io una causa in corso per, non mi ricordo, vabbè, un tuo, ma al di là della causa che era per il mio articolo, non può essere per questo, non è per questo, non è mai, perché non ti sopporta questo. ti teme? Ma no, teme, figuriamoci se Montezemolo teme Giannino. Il problema è che noi quando siamo partiti abbiamo iniziato a riempire i teatri e le piazze. Italia Futura no, perché non li riempiva allora e non li riempie neanche adesso. Quindi il problema è avere concorrenza sui treni va bene, ma avere concorrenza nel proprio schieramento non va bene. Questo è quello che ho capito io. Siamo qui con Oscar Giannino, cari ascoltatori, 800240024, candidato premio per fare fermare il declino. Caro Oscar, dovete sapere tutti quanti che lui ha iniziato a scrivere discorsi, ha scritto discorsi per un sacco di gente. Facciamo un po' di ordine. Spadolini. Scrivevi discorsi per Spadolini? Ero tra quelli che scrivono i discorsi, sì. Eravamo Quanti anni avevi a scrivere con la macchina da scrivere? Per scrivere la piccola lettera 32. A 20 anni scrivevi discorsi per Spadolini? Sì, ce l'ho io. Raccontami. C'era Stefano Folli, c'era Ugo Magri che poi è andato alla Stampa, c'era Andrea Valentini che sta a GR1, c'era Maurizio Ambrogi che è andato a TG3. Eravamo una bella squadra. Spadolini, poi la Malfa ha scritto discorsi. Poi è finita malissimo con la Malfa, una cosa pazzesca. La Malfa Giorgio, però. Sì, la Malfa Giorgio. Ma sì, certo, Giorgio la Malfa. Poi ha scritto gli scorsi De Benedetti, pure De Benedetti. Vabbè, ma no, Franco è un amico, gli devo le idee. Molti articoli che scrive erano due. Vabbè, diciamo, grande rispetto per Franco. No, ma sì, perché... Franco l'ha un po' inguaiato con la politica, perché la sua elezione al senatore con l'Alleanza Democratica, io nel 94... Quando Berlusconi scende in campo, io ero in Alleanza Democratica dall'altra parte e un po' l'ho inguaiato perché naturalmente gli ho dato una mano per diventare senatore. Per Tremonti pure ha scritto qualcosa? Per Tremonti io discorsi, mai scritto discorsi? Mai scritto discorsi. Marcegaglia sì, ovviamente. Per Marcegaglia è capitato. Molti discorsi. Vuol dire è capitato. Berlusconi mai, no? Scusami. No, Berlusconi mai. Dimmi. Io voglio capire questo da Oscar, ma perché alla fine il mitico e grande professor Zingales, uno dei fondatori, si è candidato? No, ma chi se ne frega perché non si è candidato? No, perché Ti dirò la verità, perché siccome abbiamo pensato a un certo punto che si votasse a maggio, lui ha preso il corso che iniziava invece all'inizio dell'anno e quindi ha preferito stare al caldo degli Stati Uniti, ha preferito dover avere l'impegno e quindi tiene il corso negli Stati Uniti. Il professor professore. Alla fine mi sono trovato tra i fondatori, ohimè, da solo a dovermi candidare. Questo significa, ragazzi, che in caso di Musata, ovviamente la colpa è solo mia. Ma tu chi verrà? In caso di Musata, che fai? Dimmi la verità. Qui a questi microfoni dovete sapere, cari ascoltatori, che da qui partivano le grandi invettive, le grandi battaglie di Giannino. Da questi microfoni in piedi si alzava in piedi per dire: ecco, esatto, queste cose qui. Dice qua ufficialmente: torni o non torni qui? Ragazzi, Enrico Mentana dice che non posso tornare a fare giornalista. Allora non torni per... Sono ospite da lui. Non torno più a Radio 24. No, io dico semplicemente che mi devo reinventare un mestiere. Ragazzi, guardate, io sono a reddito zero e a patrimonio intaccato. Vabbè, adesso a reddito zero non ci crede nessuno. Ma non ci crede nessuno, è la verità. A reddito zero con tua moglie che si lamenta, io questo non ci ho mai creduto. Dai, tua moglie che si lamenta. Margherita è una santa e non si lamenta. Questa è la follia, perché invece di una moglie che mi frenava, ce n'ho una che mi incentiva a fare le follie. Ma quello sì, quello ha fatto bene, però adesso non è che stai messo in mezzo alla strada, dai su. Oh, ragazzi, tutti i contratti che avevo in banca, quanto c'hai? Attualmente 34.000. 34.000 per questa campagna elettorale, quanto hai speso? Posso dirti la verità, sì. fino a questo momento. Quasi 200. 200.000 tutti i tuoi? No. Come no? Poi ci sono i contributi, sì, come no, questo ci credo. Quasi 200 tutti due. E gli altri, i contributi degli altri? Gli altri contributi sono tutti quelli denunciati e dichiarati. Quelli denunciati, vabbè. Noi siamo, tra l'altro, molti. Avete visto che siamo figurati in testa. Pare che noi abbiamo raccolto fino a questo momento due volte e mezzo i soldi tra privati raccolti dal PD. Ma chi ci può credere a questa roba qua? Cioè, noi li deduciamo trasparentemente, gli altri mi pare di no. Tu dici di no, tu dici è impossibile. Ma ti pare che io da solo, insieme, si fanno dare i soldi in nero? Siamo partiti. Si fanno dare i contributi in non nero? Non so, vediamo alla fine quanti saranno. Però una cosa è sicura: non è che noi abbiamo deciso di andare alle elezioni l'8 dicembre, l'altro ieri, e raccogliamo più soldi tra privati del PD e del PDL. Tra privati. Ma tu non stiamo parlando del contributo. No, vabbè, quello contributo, quelli ce l'hanno. Finanziamento pubblico. Non è quello, noi non lo vogliamo, non lo prenderemo. Ma detto questo, tu ci credi che il PD e il PDL tra privati stanno raccogliendo sarebbe una cosa illegale totalmente. Magari li dichiarano tutti l'ultimo giorno, aspettiamo. Vabbè, sì, certo. Fino a questo momento noi li dichiariamo quando arrivano, anche perché se non ci sono arrivati, io la firma sulle spese, siccome sono patrimonialmente responsabile, non la metto, quindi sai. Ma è ovvio, che faccio? Ne rispondo. Ma la battuta di Berlusconi sulle donne? Quale? Ne ha fatto un'altra oggi? No, perché magari oggi me la che ha fatto? Che ha fatto oggi? No. Che ha detto oggi? Basta distrarsi 5 secondi. A leggere lì. No, ma ieri abbiamo avuto una difesa dalla Santanchè di questa cosa, dicendo che le donne si rendono disponibili e dunque è inutile lamentarsi, e poi non ci si può lamentare dopo. Lei aveva un atteggiamento disponibile nei confronti di Berlusconi, quella signora lì, la signora è lui il clown. Vabbè, ma non si può dire così. La povera Angela Bruno stava lì a nome dell'azienda, è stata imbarazzata. Che doveva fare? Mandarlo a quel paese? Hai voglia poi che succedeva nell'azienda? Dai. Ma voi l'avete viste le immagini che hanno mandato in onda delle maestranze che erano lì? Lo dicevano chiaro, no? Stiamo qui per l'azienda. Dice, ma per il presidente? E loro dicevano sì, per il presidente dell'azienda, mica per il presidente Berlusconi. No, senti, due cose che sono curioso. Berlusconi, una volta tu hai detto mi ha cacciato dal TG da Rai 1 quando facevi la trasmissione. Sì. Ma perché ti cacciò? Cioè ti chiamò proprio? C'è stato un incontro, ma non è mica un mistero. Io non ho mai fatto la vittima. Però disse: tu vai veramente in diretta, perché la trasmissione è 5 minuti dopo il TG. Veramente in diretta. Non concordi preventivamente gli ospiti e le domande. Con chi dovevi concordarli? In teoria, ecco. E dopodiché ti batti per il taglio delle tasse dicendo che io non le taglio. E avevo chiamato Feltri due volte. Ricordo, sì. Perché Feltri si incazzava dicendo che Berlusconi non faceva niente. Esatto. E dici: io non posso andare in diretta a uno che vuole il taglio delle tasse. Via, subito via. E io gli spiegai dicendo: guardi, io non mi offendo, perché vedrà che negli anni o lei le taglia o io continuerò a dirlo e lei non l'avrà tagliata. Ma lui dice che non interviene mai su queste cose. Senti, in quel caso intervenne, non so che dirti. Hai capito? No, io volevo capire questo. È vero che una volta hai visto Alfano che gli portava il caffè? Sei tanti anni fa. Cioè, che è successo? Era che no, eravamo una cosa pazzesca. Ma no, adesso non era il cameriere. Però la mattina molto presto, in un incontro, capitò questa cosa qua. Cioè, che lui a un certo punto c'era pure Alfano che portava il caffè a Berlusconi. Ma non lo dico per mancare di rispetto, è veramente avvenuto. Però è curiosa questa cosa. Cioè, uscì dalla stanza, è arrivato col caffè. Era la mattina molto presto, e quando arrivò il caffè c'era Gino che lo portava. Non so che dire, io ne ho un ricordo nitido. A dire la verità, non ci avevo neanche lì per lì fatto caso. Perché è la prima volta che me lo presentò. Io mi era capitato anni prima di conoscere il padre. Sì. E poi ci ho ripensato negli anni. Perché negli anni mi è venuta in mente questa attitudine. E ho detto: insomma. Però non era il caffè di Sindona, almeno, perché è ancora vivo il suo Berlusconi. No, ma anche Berlusconi beve caffè buono, immagino. E poi non è che doveva avvelenare Berlusconi. No, ma infatti. Io avvelenava qualcun altro. Beh, chi c'era? Bondi che puliva la scrivania, no? Non c'era nessuno, no, non c'era. Era molto presto e c'era solo Berlusconi. Vabbè, comunque, discorsi per Spadolini, la Malfa, Marcegaglia, Tremonti, eccetera. Su Spadolini c'è un episodio clamoroso che tu prima o poi devi ricordare, quale? Che è quello dei mondiali di calcio. No, vabbè, ma questo, il povero Gianni Spadolini, che è un grande intellettuale, cioè altri tempi, stiamo parlando di altri politici, obiettivamente, magari più che ci ascoltano manco sanno chi è. Allora, nell'anno del governo c'erano i mondiali. Sì, mondiale dell'82 Spagna. 82, quindi l'Italia che poi si avviò a vincere. Voi non sapevate nulla? Tutti quanti noi di calcio non ne sapevamo un'emerita mazza. Tant'è vero che noi ogni volta sbagliavamo i pronostici, c'era il paese che ribolliva di entusiasmo e iniziarono a sospendere i consigli dei ministri, questo me lo ricordo, per vedere le partite, e poi c'era la finale che arrivava, perché noi pensavamo che ci eliminasse la Polonia, mi ricordo, e invece poi arrivò la finale. Allora, conciliabolo, dice: ma vince o perde l'Italia? E io fui tra quelli che disse: ma quando mai? Dovevamo già perdere le ultime due. Quindi, se ricordate bene, avete sconsigliato a Spadolini di andare a Madrid. Alla finale ci andò Pertini, perché noi commettemmo questo tragico errore di dire a Spadolini, che naturalmente ci passò per le armi, perché voleva esserci lui insieme a Spadolini. Tutti hanno visto l'aereo con lui che poi gioca a carte con Berzot, sì, certo, e Zoff e così via. E noi lo sconsigliamo di andare, naturalmente fummo fucilati per questo. Senti, ma la faresti un accordo con Però Berlino? Spadolini era uno che la prima volta che andò a vedere la partita, quando poi si alzò nell'intervallo, andò dai giornalisti a dire: bellissimo il primo atto. Il primo tempo. Il primo atto. Beh, grandissimo. Senti, ma lo faresti un accordo con Grillo dopo le elezioni in Parlamento? Un accordo, insomma, intesa. È possibile un'intesa? Perché ti piace l'idea? Io devo dire, su blocco di provvedimenti di trasparenza, cioè, per esempio, sui seguenti punti: mandiamo in onda online il Consiglio dei Ministri, primo. Rendiconti mensili della spesa di ogni parlamentare, di ogni gruppo, 2. 3. Abbassiamo il quorum dei referendum, i referendum siano validi qualunque sia la percentuale di chi ci va, perché conta chi vuole decidere. Sì. E cose di questo genere, io penso che si può fare una battaglia. Assolutamente sì. Totalmente. Tu non sei tra quelli che dicono che è un pazzoide, Grillo, un criminale. Io penso che il prossimo Parlamento ha come novità unicamente la percentuale di parlamentari, che sarà molto elevata, espressione di Grillo e gente fuori dai vecchi partiti. E più, la stragrande maggioranza saranno i loro. Poi ci sarà anche alcuni di noi. Hai detto che le proposte economiche sono fuori dal mondo. Le proposte economiche sono fuori dal mondo, però per la battaglia di trasparenza e giù le zampe dalla politica e dagli affari pubblici, questo no. Sono con Grillo. Non c'è dubbio. Bene, ultimi minuti di Giannino dopo la pubblicità. 800 24 0024, dopo voi, dopo intervenite voi. La Zanzara. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. Ti prego, rimettetemela questa qua. Albertini, ripetela con me, Parenzo, ripetila con me. Albertini, vieni giù. Che sei frocio pure tu. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Eccoci qui, abbiamo capito che tra Giannino, se dovesse entrare in Parlamento, e i parlamentari del 5 Stelle, che ci saranno certamente, anche se ci sono molti notav da quello che leggo, ci potrebbe essere un'intesa su alcune cose. Una cosa, accusano sempre Giannino di non parlare mai della questione delle coppie gay, di queste robe qui. Ma tu sei favorevole a cosa? Al matrimonio, all'unione, all'adozione? No, io alle unioni. Alle unioni, cioè, significa che quando ci sono liberi contratti tra privati. Sì, però qui parliamo di frocia, di gay, altro che. Sì, ma per motivi sessuali possono essere anche anziani che si vogliono sostenere. Da cui far discendere diritti patrimoniali, successori, accesso al welfare, sono d'accordo. L'unica cosa che dico, prima di equiparare a matrimonio, bisogna che ci mettiamo d'accordo sulle tutele per gli adottandi o i concependi là dentro. Prima definiamo le tutele per gli eventuali bambini da adottare. E l'adozione, sei d'accordo o no? L'adozione. Sì, ma dobbiamo definire però le tutele sugli adottandi, perché mentre ci sono nel diritto di famiglia, dei figli della famiglia naturale, per questo prima definiamo quelle per i soggetti deboli, per i bambini, poi procediamo. Cioè, io su questo non abbiamo nessuna contrarietà. Cioè, non sei di quelli che dicono che il bambino può nascere bene solamente in una famiglia di eterosessuali, eccetera? No, io capisco e pratico la famiglia di diritto naturale, per così dire. Però ho l'idea che l'amore possa essere dato ai figli anche da anche in un'altra famiglia. Sono di queste idee. Parenzo, dove sei sparito? Che hai fatto? Oggi ho fatto un tweet su questa cosa ridicola. Avete visto, no? In Friuli cosa è successo? Una banca che ha una coppia gay e ci dà il mutuo, ha detto no, fatelo individualmente. Ammettiamolo che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma è una roba assurda. Scusa un attimo, però, su questa storia della Lombardia, dove tu sembra che dai sondaggi, che adesso non si può dire, eccetera, hai molto consenso. Vogliamo dire una parola definitiva? Sì. Vabbè, tu voterai per il tuo candidato, esatto. E quello è evidente. Però hai detto una cosa molto concreta. Diciamoci la verità, il tuo candidato non può diventare governatore della Lombardia, questo lo sai pure tu. Cosa è meglio, che vinca Ambrosoli o che vince Maroni per te? No, per me questo, quello, pari sono. Però, io ho aggiunto, e qui c'è l'equivoco, dico, stai con la sinistra. L'equivoco la è sinistra, che una regione che per 18 anni sta da una parte, come si vede a Siena, perché stanno da 30 anni, alla fine è meglio che cambi, qua il sistema deve cambiare, altrimenti non sarebbe stato travolto da quello che è travolto. Il problema è che Ambrosoli gli ho detto, tu hai il rischio che tieni il sistema com'è e metti solo altri nomi nelle stesse caselle, e in quel caso stai bene attento perché sei come gli altri e rischi di diventare peggio degli altri. Per questo io non è che stifo. Tu dici che dopo 8 anni è meglio cambiare, perché Maroni non è nuovo? Beh, Maroni, no. Maroni è alleato con quelli che c'erano prima. Io a Maroni ho detto esplicitamente e in pubblico, e lo ripeto, e lui lo sa, fino a mezz'ora prima della sera del 6 gennaio, quando lui è andato a firmare da Berlusconi, lui mi ha mandato mezz'ora prima un sms, c'è un telefonino che dice vado a rompere con Silvio, hai perfettamente ragione, la Lega avanti tutta. Io gli ho detto tu non devi tornare indietro dopo aver cacciato Bossi, devi andare avanti su una strada che è il bilancio dell'alleanza di 18 anni con Berlusconi è fallimentare. E perché non ha avuto le palle secondo te? Lui mi ha detto io devo vincere in Lombardia e senza Berlusconi non vinco e divento testimonianza. Io ho detto se perdi ma vai avanti, costruisci un altro pezzo di futuro, invece così, se perdi sei finito. L'ultima cosa di Berlusconi su Giannino, quella ce l'abbiamo in audio, l'ultima cosa di Berlusconi su Giannino, no, di oggi, l'ultima cosa, perché ogni giorno ne spara, oggi ce l'abbiamo, sentiamo. Giannino che ha sempre asserito di essere un liberale doc, poi è andato sotto i riflettori delle molteplici trasmissioni televisive in cui ha avuto modo di apparire, ha messo come suo punto di soddisfazione quello di impedire la vittoria del centrodestra in Lombardia. Quindi ho detto e confermo, è andato fuori di testa. Vabbè, fuori di testa. Diciamo l'ultima cosa a Silvio, un ultimo pensiero, poi ti lascio. Un ultimo pensiero per Silvio, che dice continuamente che sei fuori di testa. Vabbè, che vuol dire se sono fuori di testa? Sono fuori dalla sua testa. Io uso la mia di testa, secondo me un vero liberale non può più stare con Berlusconi. E quindi io sono fiero di averne una. E quando lui dice mi sottrai i voti, si sta a singolare concezione, che se li hai comprati, sono diritto patrimoniale, i voti vanno verso però chi è più credibile. Però ti ha fatto una grande campagna, diciamo la verità, una grande campagna ti ha fatto, se non ci fosse stato Berlusconi ti ha fatto una grande campagna, indirettamente è stato clamoroso. Sei convinto che siamo d'accordo? Puoi pensare che mi diverta a farmi dare del clown fuori di testa. No, quello no, però ti ha fatto una grande campagna elettorale, cioè ogni giorno battendo il teo ti ha riconosciuto come nemico, no? Come avversario. Mi ha riconosciuto come nemico. Il problema è che per lui nemico significa essere comunista. La novità è che ci sono dei nemici davvero liberali! Grazie, Oscar Giannino! Ciao! 800 24 00 24. Soraya da Roma, buonasera! No, ma rimandami quest'urlo, ti prego! Dopo te lo rimando. Ti prego! Dopo te lo rimando. Fammi sentire questo ascoltatore. Buonasera. Buonasera, volevo chiederle come mai ieri sera non ha mandato l'ambulanza a prendere la signora Santanchè. L'ambulanza che ormai usano tutti come metafora, eh? Una volta pure Giannino l'ha usata, come, ma va benissimo, per carità, mica è nostra, chissà quanti perché anni. Con la Santanchè, perché io non è che, non ma guardi, l'ambulanza è dedicata agli ascoltatori, ma non è per cattiveria, perché non può essere mandata agli ospiti. Non è questo il punto. Il punto è che è una decisione che abbiamo preso. No, dico una frase e la saluto. Secondo le sue affermazioni non esisterebbe il crimine dello stupro perché sono le donne che provocano. Ma chi? Quale affermazione? Ah, quelle della Santanchè. Non è arrivata a dire questo. No, ma si capì. Come non è arrivato a dire? Non ha detto, però ha detto. No, ma non l'ha detto questa, tant'è che gli ho detto che ci sono donne ammiccanti. Se la donna non vuole non succede niente, invece sono donne che non vogliono, non stuprate, scusi tanto. Guardi, io le ho fatto anche la domanda quando a un certo punto se n'è uscita dicendo che quella donna si era resa disponibile a Berlusconi. Gli abbiamo fatto la domanda sulla minigonna, no? Se la minigonna può portare allo stupro. Ma insomma, adesso non esageriamo. Non ha detto questo, su. Grazie, Agostino da Piacenza. Buonasera, Agostino. Non c'è Igor da Cagliari. Igor, pronto? Vada, pronto? Vada, Igor. Sì, sì, sì. No, volevo. Pensavo che insomma il passa di Giannino non funziona. Secondo. A giudicare dall'estra cabina in Italia bisognerebbe urlare un'altra cosa, bisognerebbe urlare ancora, cioè in che senso ancora? No, nel senso che comunque la destra liberale io non la vedo, molto protesa verso l'idea di un uomo forte, basta, tutto lì, quindi è tutto da creare, anzi faccio i miei auguri a Giannino. Vabbè, Giorgio dalla provincia di Pisa, non ho capito nulla, Giorgio dica. Buonasera e buona zanzara a tutti. Vada, vada. Il signor Proto è uno di quelli che si è distinto per una serie di perle, tra cui per esempio quella di chiedere 100 euro a persone che si volevano candidare per essere assunte dalla sua società. Poi c'è tutta un'altra serie di cose. No, non ho capito questa cosa, scusi Giorgio. Proto, allora, arrestato per vari reati, ha collezionato una serie di perle. Una delle perle era che a un certo punto pubblicizzò il fatto che voleva 100 euro dalle persone che si candidavano a lavorare nella sua società solo per sostenere un colloquio. Un'altra perla è quella di quando propose l'acquisto del Torino Calcio, il Cairo, sapendo che aveva già guai giudiziari in Svizzera, lo mandò dove meritava perché parlava di un'accordata che non esisteva. Poi credo che tutti i rapporti con i VIPs delle ville siano tutte cose millantate. Quando Proto sembrava essere il famoso dinosauro entrato dal cilindro di Berlusconi, mi misi a ridere per non piangere dalla disperazione. La conclusione di tutto questo, anche di questo, è un altro motivo per dire forza Giannino. Va bene, Mirella da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo dire che ne ho le palle piene, anche se non ho le palle delle donne. Ma di che cosa? Delle donne? In che senso? Delle donne, delle donne. Cioè, voglio dire, ma chi c'è l'ordine di fare quello che facciamo? Cioè, questa signora... Ma quello che facciamo cosa, signora? Cosa? Quello che facciamo, cioè, come ci mostriamo, come ci violentiamo, labbra, tette, culi, rifatti... Cioè, non ho capito bene, scusi. No, sto dicendo che questa signora, davanti a queste provocazioni di Berlusconi, poteva subito mandarla a fanculo, no? Ah, lei è della teoria che doveva reagire subito, non a scoppio ritardato. Assolutamente, indignarsi. Ma l'ha spiegato anche io. Io ho provato a dirlo ieri e sono stato sbeffeggiato dal dittatore unico della trasmissione, signor Crugiani. Lo ha ripetuto Oscar poco fa. Molti di quelli che erano là perché obbligati... Capito? Ma no, lei non era obbligata, però. Abbi pazienza, se tu ti senti offeso da qualcuno, non è che ti metti a ridere sul palco, no? Perché lei si è messa a ridere. Ma tu sei lungo, no? Ma c'è anche una risata di imbarazzo, di paura. Sì, però scusami, adesso. Va bene tutto, però. Ho detto anche Oscar. Ma che vuol dire? Non è che se lo dice Oscar significa che è la verità assoluta. No, io ho detto una cosa molto semplice. Ho detto che se uno si sente gravemente offeso, gravemente imbarazzato per le battute, potrebbe anche avere un altro comportamento, quello dico. E poi è abbastanza strano che la reazione di questa signora, che io rispetto tantissimo, però analizzo le cose per come sono avvenute. Non è che ho le bende in faccia, Berlusconi dice una cosa e dico che è un criminale. Io non avrei mai detto una cosa di questo tipo, non faccio apprezzamenti di questo tipo in pubblico. Dopodiché, e penso che un candidato alla presidenza del Consiglio non li dovrebbe fare, mettiamo questa cosa come prima cosa in assoluto. Dopodiché guardo le cose come sono accadute. Il giorno dopo che l'azienda dà un certo tipo di informazione, sembra che quell'azienda lì, la Green Power, dà un certo tipo di informazione, lei se ne esce dicendo che è imbarazzata, eccetera, eccetera. Ora, mi sembra tutto un po' strano in quanto a tempi, no? Ma no? Che ne sappiamo della reazione delle persone? Cioè, le persone in un contesto possono reagire in modo diverso. Il fatto che lei lo abbia fatto, non è che l'ha fatto perché vuole andare contro Berlusconi, lo ha fatto perché evidentemente in quel contesto... Luca da Milano, ho capito, Luca da Milano, buonasera. Scusa, Luca. Rispetto buonasera, ci vuole, giù rispetto. L'ultima parte, però volevo dire una cosa sul fatto, Cruciani, non puoi diventare icona gay se tu lo chiedi, capisci? No, ma che io non lo sto chiedendo, è anche un gioco questo, Luca, ma chi lo chiede, ma chi se ne frega? Ma era un gioco con l'onorevole Concia sulla questione che hanno nominato icona gay Franca Leosini, che stimo e che va benissimo. Era un gioco con l'onorevole Concia, le assicuro che non ci tengo a diventare icona gay ufficiale da parte dell'Arcigay, abbia pazienza. Bene, bene, poi volevo spiegare. Ma che gliene frega a lei poi, scusi? Lei è gay? Lei è gay? No, no. No, che ne so? Le dà fastidio il fatto che magari uno voglia diventare icona gay? No, ma lei continua a insistere tutte le sere. Ma non insisto manco per niente, lo dice lei che insisto. Vabbè, allora? Basta. Poi volevo spiegare come mai la comunicazione della Lidia Rotavender non funziona. Ma chi se ne frega di Lidia Rotavender? Scusi, abbia pazienza Luca, mando la pubblicità. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo buono. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Non prendo sueno, non le importa mucho, si non prendo sueno, non le importa mucho, si non prendo sueno. Cornuto! Non capisci un cazzo. Marco Pannella, ieri ospite alla Zanzara, uno straordinario Pannella che ha detto qualcosa anche su quanti sigari fuma. Sentite, quanti sigari? E poi ha risposto anche a me, Quanti sigari fumi? Quanti sigari fumi? Oh, cazzi miei, guardate, mo stiamo a discutere. Sì, quante sigari te fai? Non me ne frega niente, manco agli altri. Una al giorno me la faccio. Bugiardo, malavia. Un tempo te ne facevi pure 10 al giorno. Bellissimo. Ma adesso ormai sei proprio cadente, non lo vedi? Avanti. Moglie di Lola, bottiglia, la riducona. Crosetto, se fuma muore, io invece se non fumo muoio. Però una domanda, Crosetto dice di fumare 150 sigarette al giorno, tu quanti sigari fumi al giorno? Chi è che fuma? Crosetto, 150 al giorno, è andato in ospedale. L'ha ricoverato pure. Andato in ospedale per 150 sigarette al giorno. Poveretto. Ho capito, è andato in ospedale. Tu quanti... Ma la differenza fra me e lui... Che tu c'hai il fisico, lui no. La differenza fra me e lui, che non so per quale motivo. Sai. Se io non fumo come lui, moro subito. Lui fuma come se stesso e rischia di morire. Quindi è stronzo lui, non io. Pannella e le battute di Berlusconi. Ma perché stronzo lui? Numero uno. Quelle di Silvio sulle donne sono, come tu dici, a sfondo, ma di impotenza sessuale. Cioè, in che senso perché impotenza? Dico che quel tipo di battute sulle donne dimostrano? È tipico dell'impotente che vorrebbe. Figura. Ma come mai così sicuro, Pannella, di questa cosa? Ancora su Berlusconi e le battute di Berlusconi. Ma poro Silvio, voglio dire, mamma Rosa sicuramente capiva quello che ha capito pure Veronica. Cioè? Ha capito che, insomma, l'età non gli stava bene, insomma, aumentava... L'eterno giovanotto. Aumentava l'ormone, la libido. No, no, non l'ormone. La libido. La voglia. Ma nemmeno, la voglia, la libido frustrata. La libido frustrata. Bene, siamo qui, un grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, non te l'aspetti, questa non te l'aspetti, un grandissimo ritorno dopo tanti anni di cazzeggio, di stronzate che diciamo ogni sera, dopo tanti anni di personaggi assurdi, di veri e propri mostri, di quello che tutto quello che dici tu, ti ho invitato finalmente un grande intellettuale, un grande protagonista della storia politica italiana, della storia giornalistica italiana, un grande intellettuale italiano, un mio carissimo amico, è da tanto che non ci sentivamo. Oggi l'ho chiamato, gli ho detto: guarda, ho ricevuto il tuo libro, ti voglio invitare alla Zanzara. Indovina chi è? Parenzo. Un grande intellettuale. Sì, intellettuale, Eco. Sono buonasera, Eco. Ma che è Eco? Ma che non c'entra? Faccio il cretino, faccio il cretino. Ma non è Eco, non c'entra niente Umberto Eco. Non è Umberto Eco. Ma figuriamoci. Ma non è un intellettuale, allora... poi se dico intellettuale mi ammazza. Cioè... Un intellettuale, il grande Magris, bravissimo Claudio Magris, hai fatto bene, bravo Magris. No. Neanche Magris. No, no, no, no. Non è Magris, non è Umberto Eco, chi... è fantastico, bravo, Ricolfi, non sono Ricolfi sulla strada. No, intanto, intanto adesso è caduta la linea, per cui, ecco. È caduta la linea. Vabbè, Mario da Milano, buonasera Mario, intanto c'è, sentiamo Mario da Milano, che non è lui. Quando dici così, quando dici così c'è da aspettarsi. Mario, di dica, Mario, Mario. Buonasera, buonasera, mi sente? Sì, sì, la sento, la sento. Senta, mi piacerebbe che l'amico Parenzo sì. riuscisse a fare la parodia di Albertini che imita la Buitoni, che ho visto mi pare in televisione. Beh, però io non sono un jukebox, quindi se lei... Sì, ma non si può fare così, non è che può fare l'imitazione. No, della... io l'ho detto prima alla vostra operatrice, perciò... ho capito, ma che vuol dire? Non è che poi lei mette, mette l'euro e scatta l'imitazione. Vabbè, comunque è tornato il nostro ospite, Giampaolo Panza è con noi, buonasera, ciao Giampaolo. Buonasera a tutti, Parenzo ci ha sabotato. Beh, colpa sua, è sempre colpa sua, è sempre colpa certo. sua. Caro Giampaolo, come stai innanzitutto? Panza. Come stai? Sto bene, grazie a Dio, mi tocco i santissimi e bravo. Vivo. Quello bisogna farlo sempre ogni giorno per precauzione. Per precauzione. Beh, ma poi adesso stabilito il mitico figlio è a Finmeccanica. Beh, questa è un'ottima notizia, no Panza? O no? Non voglio parlare di cose che non riguardano me. Vabbè, però che c'è? Altrimenti la linea accade di nuovo. Però è un'ottima notizia, o sbaglio? Sono soddisfazioni, scusa. No comment. Ma come no comment? Sei il papà e sono ma comment. Ma sono soddisfazioni, guarda, di avere, ma scusa, se uno ha un figlio stronzo e invece ce l'hai uno bravo. Scusa. Quello sarebbe una disgrazia se uno ci avesse un figlio un po' così. Invece sei lì, scusa. Il capo assoluto in un mare di guai, in un ma mare scusami di... Giampaolo, immaginati la scena. Se tu avessi un figlio, cosa che non hai, che fa Parenzo, il punk va a quel paese, non ti sento. Non no, mi ma... sento. Adesso cade la linea di nuovo. No, ma Giampaolo, tu... Parenzo, non far cadere la linea. Noi siamo stronzi, è vero, siamo stronzi, Giampaolo. No, no ma... stronzi no, cade la linea. Che no, devo siamo dire? Anche un po' stronzi. È la linea che siamo, facciamo di, anche di Radio 24. Facciamo anche gli... investimenti in tecnologie moderna. Siamo anche umili, come sai, cronisti, così. Figuriamoci. Per cui figurati se non se qualche punzecchiatura non te l'avremmo fatta anche su questo. Ma questo. Certamente. Vabbè, comunque. Io vivo di quello. Hai appena pubblicato, e poi tanto adesso ci torniamo, non ti preoccupare. Hai appena pubblicato La Repubblica di Barba Papà, storia irriverente di un potere invisibile, che è sostanzialmente la storia di Repubblica, dove sei stato quanti anni? 14 anni, libro pubblicato per Rizzoli, che vi invito a comprare, cari amici della Zanzara che mi seguite. Io non invito a, poche volte bravo. Dico queste cose, poche volte faccio queste cose, bravo. Le faccio per l'amico Giampaolo che conosco da tanti anni, me ne frego di quello che dite. Caro Giampaolo, dici una cosa cattiva su Scalfari. Su Scalfari, una cosa molto molto cattiva su Scalfari, cioè è veramente così stronzo come sembra? Non ho capito la domanda. Cioè, nel senso, è veramente così antipatico come sembra? Ma non è antipatico Scalfari. Scalfari è se stesso, è molto sicuro di sé. Sì. È un signore con un'età fantastica a cui vorrei arrivare anch'io. Voi sì. ignoranti non lo sapete, ma ha 89 anni. Sì. È bravo, è sveglio. Sì. E ha un'autostima colossale, quindi spesso sbaglia. Oppure si considera magari anche un padre eterno. Si considera un padre eterno. Lego di Scalfari è quasi... padre eterno. E quando abbiamo paura di morire, diciamo, se io faccio il padre eterno non muoio. C'è anche questa cosa qua, cioè paura di morire secondo te? Ma io ce l'ho sempre la paura di morire. Voi siete giovani, Parenzo, poi per rispetto a me è un bambino dell'asilo, sì, e quindi forse non ho ancora nemmeno imparato la grammatica italiana, porta l'ortografia, rispetto. Beato lui naturalmente. Porta rispetto. Beh, no, ma io sono sì. un signore che ha 77 anni e quindi... Sì. Ogni mattina quando mi sveglio ringrazio il Padre Eterno di essere sulle mie gambe e con la testa a posto e di ricominciare un'altra giornata di lavoro, che è la cosa che mi diverte di più. Senti, ma non rimpiangi nemmeno per un secondo di aver lasciato Repubblica? Il gruppo ma io non L'Espresso. Ho lasciato Repubblica, vabbè. Ho lasciato Repubblica per andare all'Espresso. Vabbè, il gruppo, dove il sono gruppo. Stato, dove sono stato la bellezza di 17 anni. Sì. Quindi Parenzo non sa l'aritmetica, lo faccio io il conto. No, ma per 17 dire... più 14, 31 anni. 31, al appunto. Al cosiddetto gruppone. Esatto. E poi mi hanno, come dire, spinto fuori, perché non ero il tipo adatto al giornale Caserma, che ormai era diventata Repubblica e anche in parte L'Espresso. Cioè, ti hanno cacciato, dici? Ma almeno no, mi ha cacciato no, perché non è, per contratto era impossibile cacciarmi. T'hanno dato un po' di soldi, dai, su. No, nemmeno quello. Poi che mi hanno dato un po' di soldi, mi hanno dato quello che mi aspettava come liquidazione. No, ma poi peraltro mi sono dimesso io, non sono stato cacciato, quindi i soldi che di solito si dovrebbero dare a chi viene cacciato, ma non aspettavano, e mi ha dato la mia scelta volontaria. Vi dico anche la data, 1° ottobre 2008, che era il giorno del mio compleanno. Senti, ma qualcuno ti ha mai chiesto, siccome ci sono molti giornalisti che si candidano oggi alle elezioni, no? Hai visto, no? C'è questo. Sì. In realtà ci sono sempre stati, ma comunque, qualcuno a te non ha mai chiesto di fare il parlamentare? Sì. No, qualcuno me l'ha chiesto, ma in un anno tragico. Cioè? Siccome l'offerta veniva da sinistra, l'anno tragico era il 94. E il 94 mi hanno chiesto. Prima me l'ha chiesto Mussi, poi me l'ha chiesto un altro, cos'era, il PDS, allora c'era, poi me l'ha chiesto il segretario di Milano di fare il candidato alla Camera o al Senato per la lista poi guidata da Occhetto, la progressisti, macchina sì. da guerra. Sì. Ma io sono sempre stato contrario, cioè un giornalista, soprattutto uno che si occupa di politica interna, deve stare lontano dai partiti. Vabbè, cioè tu stai dicendo, uno può anche candidarsi e poi non deve tornare a fare quel mestiere? A scrivere. No, ma comunque non me ne frega nulla, che vado a fare? Vado a fare il peone dalla Camera che picchia su. Poi grazie a Dio non ho avuto nemmeno il problema di rifiutare, perché me l'ha proposto. Beh, hai visto Minzolini, no? Però se è candidato adesso al Senato. Minzolini ho visto che è stato assolto. Oggi è stato assolto, sì, dopo... Adesso ho visto dai telegiornali che è stato assolto, ha chiesto di riavere la direzione del TG1, sì, domani sarà. Si apre però, quel problema. Scalfari fece il deputato socialista, ma per ragioni giornalistiche, diciamo, perché c'era il famoso scandalo di cui scrisse sull'Espresso e quindi si fece candidare, diciamo, però erano altre ragioni forse. Ma guarda, adesso voglio dire, Parenzo ripassa bene la storia. Ecco, ripassa. Barba Papà. Ripassa. È stato candidato dai socialisti nel 68, sì. Con gli Annunzi. È venuto gli Annunzi al Senato, ma gli Annunzi credo in Calabria. E Scalfari invece in due circoscrizioni, Milano-Pavia e Torino, un'altra circoscrizione in Piemonte, perché evidentemente c'era stato tutta la storia del famoso golpe del 64, col Sifra, con De Lorenzo, non lo so se l'hanno poi candidato per evitargli dei problemi giudiziari, ma lui ha fatto poi il deputato, era stato anche eletto bene in entrambe le circoscrizioni, ha poi optato per quella Milano-Pavia e lì si è incontrato la sorte a volte beffarda con un altro deputato di prima nomina che sarebbe diventato il suo avversario, cioè Ghino Di Tacco, ossia Bettino Craxi. Vabbè, a Parenzo interessano queste cose, non capisce niente di radio, queste cose storiche, gli interessano queste cose qua assurde. Ma è un'aneddotica. Ma che me ne frega a me l'aneddotica. Senti, caro Giampaolo, voglio sapere, tu oggi, fra pochi giorni, per chi diavolo voti? Si può dire, un giornalista lo può dire tranquillamente, su Giampaolo. Ma io lo dico, perché guarda, io ti posso anche faccio un piccolo passo indietro, per due elezioni non sono andato a votare perché mi ero staccato, mi ero rotto i coglioni. Le ultime due. Ma mentre invece andrò a votare adesso, ti dico subito per chi voto. Voto per Monti, per la lista, scelta civica. Sì, scelta civica. Voto per Monti, una persona che stimo. Del resto, sai, se Parenzo, invece di leggere i fumetti di Topolino, leggesse qualche volta Libero, giornale che probabilmente non gli piace, avrebbe già capito dai pezzi che faccio. Sì, più o meno. Lo leggo sempre. Ma è la prima volta che non voterai a sinistra? Quando voti? No. Ma no, io ho votato, guarda, ho votato, tanto per cominciare, le prime volte per i socialisti, poi ho votato per i repubblicani, il partito repubblicano di Lamalfa era di sinistra, non lo so, decidi tu. No. Ma io poi considero Monti un uomo di sinistra, posso dire una bestemmia. Beh, insomma, adesso so che lui non piace essere, proprio di sinistra, essere non è definito in questo modo, ma sai, allora, se esiste Radio 24, se Panza è ancora in grado di rispondere alle vostre domande, se Parenzo non è finito in qualche riformatorio, perché l'Italia è rimasta in piedi. Ma perché non voti Bersani, per esempio? Non voto Bersani perché non mi piace questo, mi sembra un po' la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, sai? Poi dal sinistra, da questo punto di vista, hanno un lato debole pazzesco, sono andate al governo soltanto in due occasioni, sempre guidate da un democristiano collaudato come Romano Prodi, che stimo e saluto attraverso la zanzara, però poi non mi sembra troppo, e poi non mi piace l'alleanza con Vendola. Con Vendola, roba proto sindacale. Ma no, ma poi soprattutto con le spalle, la CGIL, con Madama Camusso, con Landini. È un mondo che non sopporti. È un partito dove comandano, guarda, Succede come nei giornali, succede come a Radio 24, sì. Ma soprattutto faccio un esempio preclaro e illustre, sì, che è quello della Zanzara. Cioè? Chi comanda la Zanzara? Io, uno sottoscritto, solo. Forse già in due, tu e Parenzo a comandare, litigheresi tutti i giorni. E lì chi comanda lì? La Camusso? Lì, appunto, il problema è chi comanda? Comanda Bersani? Comanda la Camusso? Comanda Landini? Comanda Vendola? Comandano gli famosi rimasti fuori, a cominciare da Max D'Alema, è una cosa... E invece lì comanda Monti, sicuramente? Ma lì penso di sì, penso il personaggio numero uno, poi non so poi come andrà a finire. Ti ma piacciono non mi sono mai posto ti sono piaciute le tasse ti sono piaciute un po'? Però Monti di sinistra, quanto dai. Hai pagato di IMU, Giampaolo, quanto hai pagato? Di IMU? No, niente, perché io non possiedo nulla, non possiedo nessun immobile. Te credo che voti Monti, allora. Senti, però dimmi la verità, sei preoccupato per tuo figlio, è una brutta grana, questa qua. Non voglio parlare di queste cose, altrimenti cade la linea, già ciao. Caduto due volte. A presto, ti abbraccio. Grazie a voi, ciao, buona fortuna. Ciao. Viva Parenzo. Viva la Zanzara, soprattutto. Viva Cruciani e viva la Zanzara. Grazie. A borsa, grazie. Borsa. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, ritorno chez toi. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Arrête un peu ta musique. Beh, io non finisco di ridere per questa cosa. Albertini, vieni giù. Vieni giù. Che sei frocio pure tu. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi. Fabio Fazio, un grande onore e piacere avere Carla Bruni. Sentite Fazio. Vabbè, l'ha invitata per forza. Sì, aspetta. Lascia perdere Battisti, che è una vergogna assoluta. Il fatto che la signora Bruni sappia cosa è successo, sappia il perché non è stata estradata in Italia e non lo dice. Lasciamo perdere, abbiamo già parlato. Senti quello che ti dico. Prima Fazio. Se mi permettete, io davvero voglio dire grazie, perché la straordinaria disponibilità, gentilezza e simpatia di Carla Bruni no, non ha uguali. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Luciana. Grazie, questi sono i soldi di Sanremo. 100.000 pare, 100.000 euro. Grazie de che? Grazie cosa? Della gentilezza. 100.000. 100. Non hai niente da dire? Niente da dire? Ma è soltanto invidia. 100.000. Solo invidia. 100.000 per una che strimpella male. Protegge Cesare Battisti perché l'ha protetto. Lei, ma come fai a non hai niente da dire? Uno spritz, altri un bicchiere di vino bianco, grazie. Vino bianco? Ma dove cazzo sei? Vino bianco? No, sono al lavoro. Come fai a dire che è molto fresco, grazie. Come fai a dire? Ma non ti vergogni con tutti quelli che sono per strada, sono tornati adesso dal lavoro, sono in macchina, stanno guidando dopo una giornata faticosa di lavoro, sono incazzati neri e tu stai qui lavorando prendendoti il tuo aperitivino, magari anche con qualche tartina, eccetera. Non ti vergogni come un ladro. Ecco la demagogia. Dovresti ecco vergognarti come un ladro e fai pure quello di sinistra, fai. Ecco la demagogia. Perché uno di sinistra non può bere un bicchiere di vino bianco a 2,30 euro. Comunque, ha vinto Carla Bruni. Cioè, fai tanto lo scandalizzato, ma lei è la numero uno. Si senti, fa pagare. Senti il mitico Stefano De Luca del Partito Liberale. Vi prego, sentitelo. Lei è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere e se sì o no perché? Sono favorevole perché, come sono favorevole, come dire, alla libertà sessuale, ognuno col suo corpo, qualunque parte, ivi compreso il naso, fa quello che vuole. Ma questa è stupenda. Io, ognuno col proprio corpo, ivi compreso il naso, fa quello che vuole. È una cosa pazzesca. Ma no, è una concezione veramente liberale del proprio corpo. Il diritto a drogarsi, il diritto a prostituirsi, il diritto al suicidio, diritti fondamentali. Aspetta, poi il signor De Luca, sì, però io ti devo ascoltare. Non puoi stare per strada, David. Su, abbi pazienza. Sennò ti piglio a calci nel culo. Vendiamo marijuana nelle tabaccherie, dai, su, fatti, almeno fermati un attimo, no, vendiamo marijuana nelle tabaccherie, non mi fare incazzare, dai. Siamo molto prudenti per quanto riguarda le droghe pesanti, ma la marijuana, che potrebbe avere, secondo alcuni, e credo che sia così, anche degli effetti benefici sulla salute, certamente non fa più male dell'alcol o dei tabacchi. Sull'alcol e sui tabacchi lo Stato ci guadagna, beh, io credo che forse se si decidesse di vendere la marijuana presso le tabaccherie... Ultima battuta, Laura Cesaretti. Non mi molesta il moschito, retourne chez toi. Ok. Je fais la sieste moustique. Ma senti questo, un consigliere comunale all'Aquila, si chiama Ludovici, di maggioranza, dunque immagino del centrodestra, però non è sicuro. L'omosessualità esiste? Esiste, però non è legale, non è regolare, non è normale. L'uomo è nato per fare l'uomo, la donna è nata per fare la donna. Ancora Ludovici. Facciamo un'ipotesi per assurdo. Giuseppe Ludovici è un omosessuale, si innamora di una persona, di un partner, magari non so, di un altro consigliere comunale, e vogliono convivere insieme, avere dei diritti come le altre coppie, avere accesso, non so, a un appartamento del progetto case. Come la mettiamo? Ma io non è una cosa che condivido, quindi l'uomo non può innamorarsi di un altro uomo, non è normale, quindi si tiene la malattia e va avanti. Malattia è una parola un po' grossa, dai. Diciamo la malattia, perché quando un uomo si innamora di un altro uomo non è normale. Hai capito? Questa è della maggioranza di centrosinistra, dell'API, signor Ludovici. Signor Beh, Ludovici. Questa è una persona è di centrosinistra anche questo qua? Sì, come no, dell'API di Rutelli, come no, Ludovici. Vabbè, adesso di Rutelli, questa è una persona che ha detto una stronzata, ma anche pericolosa, è pericolosa perché... Ma che è pericolosa, spesso... dai, su, ma è un cretino no, e basta. È culturalmente pericoloso. Ma che culturalmente, ma è semplicemente un cretino, dai, su, ma l'hai visto come parla? Ma l'hai sentito come parla, dai, su. Ma che c'è da Davide da Torino, Davide da Torino, buonasera. Pericoloso, è un uomo pericoloso. Ciao Giuseppe. Dica, Davide. Volevo dire una cosa. Allora, davanti a Berlusconi che continua a promettere, davanti alla sinistra che da dietro alla Camusso, da dietro Vendola, a Monti che ha detto per un anno intero che non avrebbe fatto il politico e questo è il risultato. Allora, avete fatto bene a mandarlo in onda stasera e votiamo tutti Giannino, no? Che ne so, lei vota Giannino, se lei dice che vota Giannino, io lo dirò gli ultimi giorni, chi voto. Caro Davide, lei dice che le è piaciuto Giannino, benissimo, voti Giannino, a me che me frega. Assolutamente, scusa. Se vogliamo uno Stato che finalmente diventi concorrenziale, che dia la possibilità agli imprenditori di dire restiamo in Italia per investire, non vedo altre soluzioni. Va bene, Ettore da Roma, buonasera. Ettore, dica. Senta, volevo riprendere il discorso delle presunte tangenti della Finmeccanica. Sì. Volevo fare una piccola chiarificazione, cioè perché sta passando il passaggio che la magistratura... Sta passando il passaggio, non va bene. Poi... Va bene, allora sta passando, ma posso dire, l'idea... Sì, sta passando l'idea, è così. Ecco, che la magistratura sia intervenuta soltanto per il fatto che ci sia stato un presunto pagamento di tangenti all'estero. Sì. Invece, a me pare di aver capito che il problema è un altro, cioè tramite queste tangenti si sono distratti dei fondi che poi sono stati utilizzati per altre attività illecite. Quindi non è tanto il fatto di aver pagato le altre tangenti che è diventata ormai un'attività normale nelle transazioni commerciali, specialmente dirette verso certi paesi. Il problema è che sono stati presi dei fondi da queste tangenti e poi ne sono stati fatti un uso illecito all'interno del territorio nazionale. No, quella è un'ipotesi, è un'ipotesi di reato che per adesso non è stata provata, tant'è che l'arresto, ho capito, ma se non è stata provata, abbia pazienza, per adesso si tratta semplicemente, per questo è stato chiesto l'arresto di Orsi, di tangenti, presunte tangenti, ovviamente l'interessato nega, pagate a mediatori indiani e internazionali, punto e basta. Non c'entrano niente le presunte tangenti alla Lega, né soldi presi da Orsi, eccetera eccetera, i quali hanno bloccato i pagamenti, intanto, quindi danno clamoroso dell'India. Tina da Pescara, buonasera Tina, signora Tina. Sì, ma la colpa del blocco dei pagamenti non è dei magistrati che fanno le indagini, Esatto, il blocco dei pagamenti è perché uno non si fida più di quell'azienda, E quindi del paese, dell'Italia. Tina da Pescara, sì, dove diavolo sei, Parenzo? Si può capire dove diavolo sei? Sono in un... Allora, ma non si può andare a bere l'aperitivo dopo le 9, dopo che uno lavora? No, io devo sentire, devo sentire il sottofondo di chiacchiericcio, di rottura di balle. Vabbè, d'accordo, Tina da Pescara. Vabbè, che devo fare? È così, Tina. Allora, dica. Mi sente? Sì, la sento, dica pure. Pronto? Sì, sono io. Allora, questa trasmissione mi, mi piace molto perché lei è molto intelligente, un ragazzo. Vabbè, poi, poi andiamo avanti, andiamo avanti. Però l'unico handicap che volevo sapere è perché su Berlusconi gli si dice male così. Non capisco niente, Ivano da Roma, non capisco poco e eccomi, sento male. Eccomi. Ivano, dica. Ecco, intanto con i 100.000 di Carla Bruni ci sistemo tutta l'azienda e comincio a dormire per qualche notte. Tanto per dirne una. Però, però adesso io no, ho detto io no, non polemizzo mai sui compensi degli artisti, perché è giusto che c'è l'incasso della pubblicità complessivo di Sanremo, che di solito va in pareggio e va bene tutto. Io facevo la polemica semplicemente per quello che stavo detto su Carla Bruni, per perché secondo me non è nemmeno una grande artista da invitare, ma questa è una considerazione personale mia, eh. Invece possono dare a Crozza pure 1 milione di euro. Ivano, dica. Era solo una battuta. No, avevo chiamato prima un'oretta fa, avrei voluto chiedere a Giannino quello che poi lei ha chiesto, probabilmente legato al fatto di la possibilità di poter trovare un accordo anche con Grillo, perché secondo me riscuoterebbe qui a Roma c'è la sensazione che dare il voto a Giannino, con tutto il rispetto alla persona per la quale ho una grande stima, è come dare un voto un po' così nell'aria, un po' perso. Secondo me. Ma Ivano, però, se uno ragionasse così, io dico, parlo in astratto, se uno ragionasse così, cioè che votare i piccoli partiti che non magari hanno difficoltà a arrivare al 4% è un voto perso, allora uno dovrebbe concentrarsi per forza sul cioè, anche se uno è d'accordo con quello che dice Giannino, però non lo voto, ma voto un altro perché l'altro sicuramente prende parlamentari, ma chi se ne frega, uno dovrebbe votare per le persone in cui crede, per il programma in cui crede, a prescindere dal fatto che quel programma possa essere condiviso dal 2%, dal 3%, dal 4%, punto e basta. Questa è la mia sensazione. Anche questa è la mia sensazione, però dico, allora, dato che c'è voglia di cambiamento, sì. Allora dice, do un voto a un 4%, lo butto. Allora se io alleo un 4 con un secondo me che diventerà più di 20, diamo una forza. A chi si riferisce? A Grillo? A chi a si Grillo, riferisce? Sì, ma Grillo non si vuole alleare con nessuno, forse nemmeno Giannino, su molte ma cose. Ma guardi che poi esiste un'altra cosa che si chiama il voto d'opinione, oltre che il voto di cuore e di passione di cui parla ma Cruciani. Che c'entra adesso questo? No, il voto di opinione è il voto classico di chi dice so che questo partito non arriverà mai al governo o avrà cifre iperboliche, ma è un voto di opinione, un voto di testimonianza. Vabbè. E voglio che ci sia una piccola pattuglia. Ma adesso che diavolo c'entra questo traffico, mamma mia, il voto di opinione, ma tu fai troppe analisi sociologiche, ma il popolo la pensa in maniera diversa, il popolo parla un'altra lingua, il voto di opinione, parla come senti parlare la gente in giro. Scusi, lei sa cos'è il voto d'opinione, no? E allora? Perché c'è questo coglione di Cruciani, il signore che è un signore del bar che sta buttando via la spazzatura. Faglielo spiegare. Allora, c'è Cruciani alla radio. Radio 24. Esatto. Che mi ha sta buttando la spazzatura intanto, il cameriere di un bar. Che mi ha detto che il voto, la gente non sa cos'è il voto d'opinione. Glielo può spiegare a sto cretino? Prego. Cruciani. Sì, buonasera. Lei sa che cos'è il voto d'opinione? Lei lo sa che cos'è il voto d'opinione o no? No, pronto. Sì. Vieni, lo sa o no? Qui. Aspetta che ha buttato la spazzatura. Ma secondo. Non lo sa, evidente, no? Devi parlare lo come. Sta uscendo, devi parlare come la gente comune, non devi parlare come gli intellettuali amici tuoi. Te ne devi rendere conto, te lo devi mettere in testa. Altrimenti resta confinato nel tuo mondo di poveri. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Eccoci qui, caro Parenzo, per questa conclusione. Beh, la vogliamo fare. Innanzitutto fammi sentire Francesco da Venezia, un secondo. Francesco da Venezia, sì, veloce. Sì, sì. Francesco? Non c'è. Giovanni da Roma. Ciao, buonasera. Dica, non sento niente. Ivano da Roma. Ivano da Roma. Stasera ammazzo tutti. Ivano da Roma, non c'è. Arian da Pescara. Divento una belva stasera. No, guardi, non è che sono da Pescara. Sì, da dove? Allora, sto parlando qua sulla A4, Torino-Milano. Sì, comunque, ma lei ha sbagliato tutto, c'ha la radio alta, cancelliamo tutto. L'avvocato Luca Di Carlo, buonasera, avvocato. Buonasera, grande, come stai? Beh, come stai chi? Ma che ci conosciamo? Ci siamo mai visti? Beh, ci conosciamo adesso, ci conosciamo, no? L'avvocato, va bene? L'avvocato Di Carlo. L'avvocato Di Carlo, ex compagno di Ilona Staller, fondatore di Democrazia, Natura e Amore. Signor Di Carlo, ma come mai si è lasciato con Ilona Staller lei? Beh, problematiche sentimentali, aggiotaggi anche politici. Come aggiotaggi politici? Lei metteva le corna, diciamo la verità, belle corna. Diciamo la verità, diciamola tutta, sì, un problema di corna. Corna di chi? Ecco, ma avvocato, scusi, sì. Avvocato, volevo chiedere questa curiosità. Cioè, uno che sta con una... No, questo è molto serio. Sì. Non so se si può dire a quest'ora, ma io ormai lo dico, me ne fotto. Cioè... uno che, lasciamo stare che è avvocato, uno che sta con una signora come la signora Staller, che quindi è una professionista di un settore, era pare che lui volesse farla lavorare ancora, giusto avvocato? Ma io sinceramente io ci ho provato ancora, ma lei è una professionista dell'amore, quindi ma anche... non voleva più fare la pornostar, lei voleva che lei voleva farla lavorare ancora. Signor Di Carlo, su ma lei come... non era geloso del pitone, il famoso il pitone, ma questo guarda, abbiamo fatto un sacco di provini, io ho cercato di reinserirla, ma sa, non c'è stato nulla da fare. Beh, lei non voleva, diciamo, lei non ma voleva. Ma non si è mai sentito inibito, non so, ad esempio, non sono all'altezza, perché insomma, la signora è esperta nel settore, io mi sentirei inibito. Ma no, ma l'avvocato Di Carlo... ma c'è sempre tutto da imparare, insomma, c'è un'evoluzione anche sociale, anche nel sesso, quindi, insomma, sembra tutto sembra tutto fatto, ma in realtà, insomma, c'è tanto da imparare. C'è sempre da imparare. Avvocato Di Carlo, Parenzo, adesso ti devi incazzare per questa cosa, però, seriamente. L'avvocato Di Carlo, Luca Di Carlo, ex compagno di Ilona Staller, fondatore di un partito, ma lei lo fa l'avvocato o non lo fa? Mai? Cioè, ma, assolutamente sì. Assolutamente lo fa l'avvocato. Sì. Ma chi si fa difendere da lei, avvocato? Ma di me si fa difendere tutto il mondo hard erotico. Ah, lei è il difensore del mondo hard erotico? Ma è chiaro, del mondo ma è chiaro, è tutto mi chiaro. Mi piace poco, avvocato. Scusi, avvocato Di Carlo, lei sta facendo un film, cioè questo è clamoroso, Parenzo, incazzati come una mezza. Un film tra le macerie del terremoto, un film hard tra le macerie del terremoto aquilano... Ma questo film deve essere una provocazione e deve mettere a nudo nel vero senso della parola la politica italiana degli scandali, no? Ma sì, la e lei politica fa, che e lei non fa, è mai cambiata. E lei fa un film porno. È peggiorata. E lei fa un film porno. Io voglio fare un film erotico. Un no, film erotico tra porno. Un film erotico tra porno, politica e atteggiamento politico. Quindi, diciamo, ma voglio rappresentare l'Italia peggiore tra le rovine della città dell'Aquila. Lei quindi contro frutta, la mercificazione del sesso politico, partendo da Vallettopoli, dal Bunga Bunga, contro la corruzione partendo da Tangentopoli sì, fino ad oggi, sì, certo, arrivando al fallimento totale della politica e anche del una luogo. Una specie di Fellini, lei si sente. È chiaro, ecco, il gioco torbido e mostruoso di ogni sacrificio sociale. Hai diciamo, capito? No? Sì, beh, diciamo, ecco, certo, diciamo. E io sì, mi sacrifico con queste ragazze porno. Ma lei perché lei fa pure l'attore, lei fa pure l'attore in questo film? Ma non è detto che oltre regista mi presti anche con attività, diciamo, erotiche. Capito, Parenzo? Ma è una vergogna assoluta, cioè l'avvocato, con grande rispetto glielo dico, ma è una vergogna, cioè usa il dramma dell'Aquila per farsi i cazzi suoi. Ma assolutamente no, come assolutamente no, come no. Invece no, questo film non usa il dramma, no. Questo film non usa il dramma dell'Aquila per porre in essere una filmografia, ma questo film va a rendere noti quelli, ma a rendere noti cosa? Fatti, ma a rendere noti, ma lei fa un film porno, lei fa un film porno tra le macerie dell'Aquila, ma dovrebbero proibirle di girarlo questo film all'Aquila. Assolutamente no, questo è un film invece che porterà gloria di nuovo e splendore. Ma dove? Ma quale gloria? Ma ce l'hai permesso o no? Perché è la politica che va condannata. Ma ce l'hai permesso o no? Ma ce l'hai permesso? Ma per non vanno condannati atteggiamenti sociali per fini antipolitici, sulla ma politica di che sta corrotta parlando? Sulla politica depravata. Ma una quale politica? Nascosta. Ma depravato è lei, avvocato Di ma Carlo. Assolutamente no, c'è un nesso con la politica. Ma quale nesso? Ma quale è proprio quello, è la ragione, sta proprio nel porno politica. Che ma di che sta parlando? Sempre nei banchi del Parlamento. contro ogni perbenismo. Vabbè, avvocato Di Carlo, lei vuole girare un film all'Aquila, dovrebbero proibire di girare un film. Assolutamente no, perché lei è un bigotto, lei è un perbenista finto, ecco. Ma si figuri, io sono perbenista. Lei si schiera dalla parte della politica, quella finta. Ma quale politica finta? Ma di che lei sta parlando? Lei vuole celare alla gente, al ma popolo, celare quello che il popolo sa, quello che il popolo ma sa. Ma celare sa. Che? Ma di che stiamo parlando? Ma lei è un film, la politica, lei, la politica lei. È tutto un film. Lei sta ancora mettendo, sì. Vorrebbe mettere il ciuccio alla gente, ma non ci riesce. Ma quale ciuccio? La gente è scoraggiata. Ma quale non è così. La politica va combattuta, perché la politica, sì, è la prima malattia. Ma e solo, sì, dopo che si è debellata si possono affrontare, vabbè, le problematiche sociali. Addio, avvocato. E lei è un fantasma politico. Sì, addio. Fantasma, addio. Addio. Ma lei è un furbone. Vabbè, ma è pazzo, dai. Claudio da Biella, per concludere. Claudio, dica. Buonasera, buonasera. Volevo una domanda a Parenzo, che mi ha commosso questa, sì, sera. Sì. Ha detto, proclamava la libertà dell'utilizzo del proprio corpo, delle, certo, droghe, del sesso. È fenomenale, Parenzo è un grande. Ma mi scusi, tutti meno uno, giusto? Berlusconi, vero? A domani, 18.30. Salve, avviamo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Radio 24. La passione si sente.